Io avrei retto 10 secondi con quella signorina lì. 10 secondi. Cioè questa che si presenta come se fosse un premio Nobel, come se fosse Rita Levi Montalcì. Ehi, questa che dice al presidente in carica, mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazzato e vattene. E vattene, ma vatti a fare 2 passi davanti a Montecitorio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Comico, annoiato, con un guru col capello pazzo, che insomma vuole appunto aprire il Parlamento come una scatola di tonno, e quello è un programma che non è compatibile con il governo Rodotà o il governo Zagrebelsky o il governo Bersani. Vuole uno straccione che non si pulisce i denti, non va dal dentista, la cosa fondamentale è che non fa la pulizia dei denti, gli puzza l'alito sicuramente. L'unica vera forza di Cacciari sono le donne, cioè che piaceva le donne ed era un professore, ha scopato con molte donne, ma per dirvi una cosa, così gli aprite un capitolo nuovo, lui è stato l'amante di una delle amanti di Berlusconi. Siamo in un paese, caro Parenzo, in questo momento quasi ti invidio per la tua permanenza israeliana. Siamo in un paese, ti faccio un po' un riassunto di questi giorni, eh? Sì, un piccolo riassunto. Un paese dove abbiamo un presidente preincaricato congelato. Sì, che oggi signor Bersani, che oggi ha detto in realtà che il suo incarico è assorbito, ha utilizzato questa parola, assorbito, sai, come gli assorbenti. Potrebbero tentare un programma con quella antiassorbenti dei grillini, no? La daga. Allora, un presidente preincaricato congelato, anzi assorbito. Un premier in carica dimissionario, ma tuttora in sella, esatto, il professor Monti. E 10 saggi alle dipendenze di Napolitano, questa è l'Italia. Che devono fare cosa? Quindi 10 saggi in 10 giorni, peraltro. Sì, 10 saggi in 10 giorni, però 7 spose per 7 fratelli, eccetera. È un'altra cosa meravigliosa, cioè 10 saggi che in 10 giorni devono esplorare, non si capisce che cosa. Allora, oggi un tassista, ho preso un taxi, anzi, ieri ho preso un taxi, pagato, ovviamente. Mi ha detto, dottor, come mi ha riconosciuto? Fa, dottor, com'è la situazione? Io ho cercato di spiegargli, sì, qui c'è presidente preincaricato, congelato, un premier in carica, insomma 10 saggi, sai come mi ha risposto? No. Ah, oh, io non ci ho capito un cazzo. 10 ragazzi così, te li consumi. Poi la seconda cosa che mi ha detto, oh, ma chi comanda adesso? Perché ovviamente il problema è quello, chi comanda? No. Napolitano. No, ma sì, però uno giustamente si chiede chi comanna, questo è il gergo del tassista romano, no? Ma chi comanna? Anche perché questi saggi, sentiamo Onida, il professor Onida, no? Uno di questi saggi che era quando è stato nominato Napolitano, era a vedere l'Inter allo stadio, però questo non vuol dire nulla, naturalmente, no. Però senti che dice a un certo punto: non abbiate troppe speranze in noi. Grazie per essere stato. Non abbiate troppe speranze, lo dico proprio, non bisogna mai illudersi troppo, perché dopo si rimane delusi. Bisogna essere anche realisti, non ottimisti. Si fa ogni sforzo possibile, questo è il punto. Dunque, a cosa serve? Andare in televisione, in sostanza, essere chiamati in televisione da qualche radio, anche se nelle ultime ore hanno messo un po' un blackout dell'informazione. Blackout informazione. Vogliamo ricordare cosa disse uno di questi saggi, il professore Quagliariello, PDL, qualche giorno fa a proposito di Dell'Utri, così tanto per ricordarlo, Parenzo? Beh, sì, sì, questo è l'elogio di Dell'Utri che fece il signor Quagliariello. Sì. Quagliariello. Posso dire che Marcello Dell'Utri ha dato tanto alla cultura politica di questo paese. Appassionato bibliofilo, è stato presidente della Commissione Biblioteca del Senato per tanti anni, stimato dai colleghi di tutti i gruppi. Noi lo sappiamo che cosa ha detto. Ha detto che Dell'Utri, condannato come sapete eccetera, è un bibliofilo. Adesso io posso anche difendere Dell'Utri a spada tratta, ma non perché è un bibliofilo. Uno dei saggi. Oh, Bersani di oggi, Bersani di oggi, che non ha detto nulla, tu non lo sai, ma non ha detto nulla, cioè non è cambiata una virgola. Ma Bersani non molla, mi pare di capire. Sì, non no? molla, in realtà non si capisce, perché ha fatto una conferenza stampa per, praticamente facendo la cronaca di quello che è accaduto, senza dire nulla di concreto, tranne a un certo punto ha detto: sono pronto a farmi da parte se sono io di ostacolo, però poi si è subito corretto. Ha detto anche, questa è l'unica novità politica, lo sappiamo, cari tassisti, cari macchini automobilisti, cari cittadini, cari che parliamo di cose che per voi non sono importanti. Però quello è, cioè il problema qui è capire proprio dalle parole quello che può accadere. Allora, Bersani ha detto: comunque le elezioni sono una sciagura. Adesso, questa è l'unica forse novità politica vera. Sentiamo l'assorbimento, va, l'assorbimento. Mi affido naturalmente alla sapienza del Quirinale, per me ritengo assorbito questo preincarico, che non era un incarico dentro questa nuova procedura. Poi ha detto anche: ci sono, non vado al mare, sì. Ma veniamo a quello che è successo la settimana scorsa, alle affermazioni pronunciate, alle affermazioni fatte qui. Tu non hai vissuto quello che è avvenuto dopo, caro Parenzo. Da Sgarbi. Ma no, Sgarbi, lascia perdere Sgarbi, da Giovanardi, dal signor Giovanardi. Ah, quelle invettive vergognose che hai fatto riascoltare contro il povero professor Cacciari. No, quello ne parleremo dopo. Giovanardi su Aldrovandi. Dichiarazioni che hanno suscitato varie polemiche, ne parleremo fra poco. Innanzitutto quella sulla foto. Quello sulla foto di Federico Aldrovandi, signor Giovanardi, sentiamo. Perché non è stato massacrato questo ragazzo? No, quella foto che ha fatto vedere la madre, una foto terribile, ma quella macchia rossa che è dietro è un cuscino, non è sangue quello, eh? No, no, è vero, la foto è vera, l'avevano appoggiato la testa su un cuscino, no, non è sangue, ma neanche la madre ha detto che è sangue, e neanche lo può dire, perché non è così. Beh, veramente non ha detto proprio così la madre, fra poco sentiremo. E poi Giovanardi ha detto: nessuno va in carcere per omicidio colposo, cosa che ovviamente non è vera. I poliziotti non devono perdere il posto, sentite. Se uno investe in macchina una persona mentre fa il poliziotto o fa l'agente di commercio, deve essere licenziato dal suo posto di lavoro? È giusto che paghi, è giusto che venga condannato. Ma da questo a guardarmi via, ma da questo a dire chi e provoca una cosa di questo genere durante una rissa, durante un contrasto con una persona, deve essere cacciato via dalla polizia. Sono vittime anche i poliziotti. Aldrovandi è una vittima e c'è una condanna giusta, però sono anche vittime per certi aspetti, dopo aver pagato giustamente con una condanna il loro comportamento, e quelli che per colpa, facendo il loro dovere, magari facendolo male, si sono presi una condanna. Bene, questa è la Zanzara, iniziamo così, 800 24 00 24, stavolta un po' più seriosamente rispetto al solito, caro Parenzo, perché c'è la madre di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti, che saluto e ringrazio, buonasera. Buonasera. Senta, che effetto le fa risentire queste frasi pronunciate da Giovanardi, se già non l'ha fatto prima, durante il weekend, insomma, quando le ha pronunciate, signor Aldrovandi? Fa male, ma penso che Giovanardi abbia una fantasia proprio scatenata, assoluta. Cioè, se le sogna di notte queste cose, non so. Insomma, al di là del merito, a lei la faccia, insomma, il personaggio Giovanardi cosa le provoca? Mi scusi, insisto su questo aspetto. No, cioè, io lo sto stomaco si sente veramente male a sentire queste parole di Giovanardi, anche perché proprio è recidivo, veramente. Cioè, perché lo definì suo figlio eroinomane, no? Nel 2006, sì, non mi ricordo. Sì, nel 2006, pochi mesi dopo che mio figlio era stato ucciso da quei quattro poliziotti. Ma è degno di stare in Parlamento, secondo lei? Decisamente no. Secondo me non è proprio degno di stare in Parlamento, credo, da parte Dove mia. Io ho fiducia nelle istituzioni, penso che quindi Giovanardi non le rappresenti nemmeno un po'. Quindi secondo me non è degno di rimanere lì. Senta, ma qualcuno del PDL, perché comunque Giovanardi appartiene al gruppo del PDL, alla Camera, no? Dopo queste frasi pronunciate da Giovanardi, le ha chiesto scusa, che ne so, si aspetta delle scuse da parte, non dico di Giovanardi, ma da parte, che ne so, del capogruppo del PDL alla Camera, del segretario del PDL, non lo so. Sì, io ne ho ricevute non direttamente, diciamo, l'unica con cui ho parlato in trasmissione era la deputata che c'era da Santoro il giorno scorso, e che infatti mi ha sostenuto. Ah, la De Girolamo, sì, la De Girolamo. Sì, però era prima delle dichiarazioni di Giovanardi, quello. Sì, è vero. No, io sto dicendo dopo, successivamente, dopo, quando Giovanardi ha detto. Dopo Giovanardi, in realtà, non ho avuto riscontri da parte di qualcuno. Secondo lei il PDL dovrebbe prendere qualche provvedimento nei confronti di Giovanardi? Secondo me sì, dovrebbero fare un po' una valutazione anche politica, perché tutto sommato non si tratta di partiti, ma se non è politica questa, cioè quando ci si occupa delle persone, della gente e della società, forse questa è la parte più alta della politica, a mio parere. Invece viene calpestata continuamente, per quel che Da dove può avere preso quella frase là, cioè quella sul cuscino? Io adesso ho cercato di interpretarla, no, quella frase, per cui uno non è che può impazzire e dire quello non è sangue, ma è il cuscino. Forse voleva dire qualcosa. È la prima volta che parla di quella roba della foto? Sì, che io sappia sì. Cioè, io non lo. Cioè, in questo campo proprio non l'avevo mai ancora sentito esprimersi, davvero. Cioè, per questo dicevo, questa fantasia fertile, ne inventa sempre una. Ma lo ha già querelato? Sì, vengo adesso dallo studio dell'avvocato, dove abbiamo steso la querela, e naturalmente. Quanto sì. Pensa di scucirgli? Beh, non credo. Non ho idea. E comunque se le cose, cioè, sicuramente la vinco questa querela, perché è uno degli atti del processo, quella fotografia. È uno dei. Purtroppo sono le fotografie scattate da Figlio. Dice, almeno mi faccio un risarcimento cospicuo alla memoria di mio figlio. Beh, adesso non penso che stia pensando che sia. Beh, almeno questo. In realtà se questo sarà, sicuramente il risarcimento sarà devoluto a qualche finalità sicuramente benefica. Ho anche creato l'associazione Federico Aldrovandi proprio per cercare di dare un po' di respiro e futuro a questi nostri ragazzi. Voglio fare del bene a qualcuno, ecco. Cioè non se li tiene quei soldi se mai dovesse vincere una causa? Certamente no. Ma perché cos'era, qual è il reato eventuale, diffamazione, che cos'è la storia, non mi ricordo. Sì adesso non certo. Comunque l'ha appena stesa con il suo avvocato e la depositerà nei prossimi giorni. Sì sicuramente ci pensa l'avvocato, che è molto più competente di me. Senta, secondo lei questi quattro poliziotti che sono stati condannati, tra l'altro io ho detto a Giovanardi in trasmissione che hanno avuto anche fortuna, perché in parte queste pene sono state condonate, no? Certo, con l'indulto. Dunque non è che vuol dire sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo, ma in realtà devono scontare solamente 6 mesi, e c'è chi non vuole fare scontare neppure questi 6 mesi. È inutile che questi qua secondo lei vanno cacciati dalla polizia? Sì, direi di sì. Io è quello che ho sempre chiesto, secondo me è proprio questa la richiesta principale che io pongo. Chi ha ucciso, ma il reato colposo, vede, è una delle fortune che hanno avuto, perché in realtà, correlati al processo principale, ci sono stati molti altri processi per i depistaggi, gli insabbiamenti ai loro colleghi e anche allora, a tutto il contesto di copertura che c'è stato in quel periodo. Il giudice ha detto che in base a questo, cioè proprio ai depistaggi, alla mancanza di prove sottratte, non è stato possibile condannarli per un reato più idoneo. Altrimenti non sarebbe stato certo colposo. E quindi le condanne, cioè sarebbe stato un altro tipo di reato, lei dice? Sì, suppongo, cioè sarebbe stato più pesante, cioè lei si aspettava da tutta questa vicenda una condanna molto più pesante rispetto all'omicidio colposo. Sì, ma quello che mi interessa in realtà, veramente non è il numero di anni che sconteranno nella condanna. Ma quello che mi interessa veramente è che vengano espulsi dalla polizia, che non possano più nuocere, non possano più fare quello stesso lavoro. Credo che quel lavoro, per il rispetto che porto all'istituzione, quella gente lì non ci dovrebbe stare dentro. E lei non prova, da questo punto di vista, non ha una preoccupazione per la loro famiglia, non gliene frega niente, oppure non ne frega niente, magari no, cioè sì, oppure non è questo il punto, insomma, se hanno direi per le loro famiglie, intende, se restano senza lavoro. Esatto, sì. Beh, dovevano pensarci prima. Poi a me non interessa che restino senza lavoro, in realtà dovevano pensarci prima di uccidere, prima di giurare e prima di fare un lavoro del genere. Forse erano più adatti a fare qualche altro mestiere. Forse faranno, a me va bene anche se fanno un altro mestiere, decisamente. L'importante è che non indossino più la divisa e non abbiano più armi. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here. Ne parleremo più avanti, Parenzo, però sai che i tweet di Feltri stanno facendo discutere moltissimo, in particolare due. Ho visto che lo chiamano già Feltri 2000, come novella 2000. Esatto, però ti sei informato da Israele oggi su queste cose? Ho letto due o tre cosette, le ho lette anch'io. Un politico importante ha ingravidato la cameriera e la moglie lo ha buttato fuori di casa. Questo è un tweet, un politico importante ha ingravidato la cameriera e la moglie lo ha buttato fuori di casa. Questo uno, dunque, chi è? Un altro politico ex importante è stato mollato dalla compagna e ora è ricoverato, è sotto analisi. That means I better go. Bye. Ma ti pare possibile che il PDL fa questa polemica ridicola sull'imitazione? Anzi, due esponenti del PDL sull'imitazione della Pascale? Dai, su. Ma tra l'altro sono la Santanchè e la Biancofiore, che sono state smentite dalla stessa Pascale, che ha detto invece che era divertente, che si è divertita, eccetera. Ne parleremo più avanti. Abbiamo sempre Patrizia Moretti con noi, madre di Federico Aldrovandi. Io vorrei capire ancora una cosa. Sì, dimmi, Parenzo. Giovanardi alla fine difende degli assassini quando se ne esce con le sue sortite, con le sue frasi. Siamo retti? Ah sì, sono qua. Sì. Sicuramente sì, cioè, non capisco poi il suo atteggiamento. Credo che Giovanardi ormai con me ma da 8 anni perché già con altre persone si è ritagliato questo ruolo. Lei dice che si è proprio ritagliato il ruolo. Ho letto da qualche parte, ma ovviamente sono speculazioni e magari anche opinioni, che lo fa per tenere la scorta. L'ho letto da qualche parte, è possibile secondo lei? Sì. Ma forse, non lo so, non ho idea di quali siano le sue motivazioni, davvero non riesco proprio a capirle. Cioè lei si aspetta per esempio una telefonata dal leader del PDL che chieda scusa a nome di Giovanardi del PDL, perché è pur sempre del PDL Giovanardi? Sì, no, sarebbe, o non sarà... sarebbe molto bello veramente, cioè, sarebbe una gran cosa. Però finora, non lo so, forse mi avrebbero già chiamato se si fossero dissociati. Mi chiedo che cosa cerchi Giovanardi nell'attaccare sempre noi e le altre vittime, che in questo caso hanno come controparte purtroppo qualcuno che appartiene alle forze dell'ordine, anche se non le rappresenta. Sì. Ma lui le difende lo stesso. Chi se la prende? Lui è un esperto di questi casi, diciamo. Però le voglio chiedere un'altra cosa. Secondo lei non è che qualcuno le ha chiesto di candidarsi qualche volta in questi anni? Perché è possibile, sa che c'è una specializzazione ogni tanto nel candidare i parenti delle persone che hanno avuto delle sfortune, in questo caso la morte. Sì, ma molto vagamente. In ogni caso io ho sempre detto che non ho intenzione di candidarmi. Lei non si candiderà mai in Parlamento? No. Cioè, per esempio, chi l'ha fatto in nome dei propri figli uccisi ha commesso un errore? No, è una libera scelta, hanno fatto bene se lo ritengono. Penso che ci sia molto da lavorare in questo campo. Io in realtà faccio e continuo a fare la mamma di Federico. Per adesso non c'è spazio per nient'altro. Però non si candiderà mai in Parlamento? È un problema che per ora non me la sentirei proprio adesso. Ma gliel'hanno chiesto anche recentemente di candidarsi nell'ultima elezione? A queste ultime elezioni no. Però prima sì. Sì, prima sì. E chi? Si può sapere? Sì. Allora era Rifondazione, me l'aveva chiesto, ma era un'indicazione, cioè per il Parlamento europeo, le elezioni precedenti. Sì. Cioè, ma in ogni caso, finché questa vicenda non sarà completamente conclusa, e cosa manca secondo lei ancora? Perché poi alla fine c'è la Cassazione, eccetera, non c'è rimasto nient'altro? Oppure qualcuno è rimasto impunito in questa cosa? Chi è che è rimasto impunito in questa vicenda di suo figlio? A parte che manca proprio la conclusione, che è quella che le dicevo prima, una definizione, manca proprio l'atto finale di che, qual è la posizione che prenderanno le istituzioni, se non le licenziano oppure se continuano a fare i poliziotti. In realtà io credo di non avere proprio più nulla da dire. Mi dichiaro vinta e poi il mio atteggiamento non sarà più lo stesso che ho tenuto finora, non parlo e basta, chiudo. Io adesso continuo a parlare perché continuo ad avere fiducia nelle istituzioni. Cioè, cosa fa? Se non li buttano fuori dalla polizia, cosa che ormai sembra abbastanza certa, cosa fa lei? Non ho capito. No, cioè questo è l'atto finale. Finora non considero concluso questo percorso. Finché non li cacciano, finché non li mandano via dalla polizia. Esatto. Dopo, quando sarà concluso, ci penserò. Adesso proprio il problema non me lo pongo. Credo, sono molto impegnata. Questo è il pensiero. Ma chi è rimasto impunito? C'è qualcuno che è rimasto impunito che lei vorrebbe in questa vicenda? In realtà mi piacerebbe veramente che, al di là dei tribunali, di tutto quello che sono sicuro è stato fatto forse tutto il possibile da parte dei tribunali, però c'è una grossa parte di quello che è successo in questura in particolare, sì, nell'immediato, in quei giorni immediatamente successivi, di cui anche Manganelli aveva chiesto si facesse un approfondimento. Cioè qualcuno che ha cercato di occultare la storia, di insabbiarla all'inizio, nei primi giorni. Esatto, cioè vorrei che chi adesso sa delle cose magari ce le dicesse, a prescindere dai tribunali. Secondo lei c'è uno che è rimasto proprio impunito in queste vicende, un grande insabbiatore che è rimasto impunito, che non ha ricevuto nessuna condanna, che non è stato impunito? Più d'uno. Più d'uno. In particolare? Non so se posso dirlo, dopo mi querela. Lo so, se si facesse querelare, siamo davanti. Noi siamo specializzati in questo, siamo retti. No, cioè, anche perché io veramente ho delle idee, però vorrei che qualcuno facesse questa indagine, e credo che questo potrebbe essere veramente disposto da chi può farlo, insomma. Avesse di fronte in questo momento Giovanardi, che cosa direbbe Giovanardi? Non ci vorrebbe nemmeno parlare, le stringerebbe. Direi Giovanardi chi? Giovanardi chi? Non ci voglio proprio parlare con Giovanardi. Non ci vuole parlare? No, assolutamente. Che insulto, lei ha detto, lo coprirei di insulti. Che insulto pronuncierebbe? Ma lei mi vuole fare proprio querelare. No, un insulto non è che sia... Sì. No, ecco, si vergogni. Ecco, veramente si deve vergognare Giovanardi. Chi lo autorizza? Ma chi glielo fa fare? Di fare continuamente del male, di girare il coltello veramente nella piaga, di fare del male a delle persone già così colpite. Lui dice difendo i poliziotti perché abbiano lo stesso trattamento di altri che sono stati condannati per omicidio colposo. Questa è la linea di Giovanardi, ha capito? Ma cioè, Giovanardi non segue questa linea. Io credo che Giovanardi con il suo comportamento finisca col nuocere perfino alle istituzioni, perfino alla polizia stessa. Nuoce alla polizia stessa, questo è interessante. Cioè sporca il nome della polizia. Sì, decisamente, secondo me sì. Siamo retti, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie, buonasera. Io so che l'ha detto scherzando, ma il professore Becchi dice, ma intervista di Mattia Feltri domenica, credo, ma lei alla Zanzara disse che sputava in faccia a Monti. Ma la Zanzara è una trasmissione ridicola. In realtà il professor Becchi, che io conosco, come sai, apprezzo anche, voleva dire una trasmissione in cui si ride, ma c'è sempre questo tentativo di far passare quello che si dice qui come una cosa così di risata. Qualche volta è così, ma nel caso del professor Becchi, caro amico, ti abbraccio, non è andata proprio così sullo sputo contro Monti, eh? E c'è l'audio. Lei sputerebbe in faccia a Monti? Io se lo avessi di fronte, sì, a costo di andare in galera, perché quella è veramente una... Lui, ma ancora di più Prodi, perché ce lo chiede l'Europa. Io quando vedo quella faccia lì, mi sono fatto, sai, questi giochi che ci sono da tirare le freccette, vabbè, no? Con lui, con quella faccia, ce lo chiede l'Europa. capisci? E che si è fatto? Ogni tanto tira le freccette contro, esatto, contro non Brody. Non posso soffrire. Non mi sembrava proprio una cosa da gioco, ecco, insomma. Ha fatto tutto lui, ha fatto. Cioè, le freccette, si è messo là un Prodi, che tra l'altro adesso Bersani vorrebbe candidare alla presidenza della Repubblica, vorrebbe, secondo le indiscrezioni, si è fatto la figura di Prodi e poi le freccette, zac, zac, zac. Tutta la notte e dorme in un tombino, c'è l'aria del letto che mi graffia tutto, cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi, ma che mondo è questo, ma in che cosa sei riuscito? Un disimpegno conclamato di 5 Stelle che ha avuto 8 milioni di elettori e a quanto pare intende metterli in frigorifero. Eh no, Bersani, non vuole mettersi in metterli in frigorifero, ha una strategia diversa dalla vostra, legittima. Ha una strategia diversa dalla vostra. Adesso cosa hai da ridire su questa cosa, Parenzo? Cosa hai da ridire? Anche su questo hai da ridire? Eh? No, la critica che lui fa è che questo signor Grillo, questo personaggio, questo guitto vuole... Grillo? Grillo? Sì. Pronto, Grillo? Mettere in stallo il paese, capito? Sì. Il paese. Come mettere in stallo il paese? Bloccare il paese, bloccare tutto, bloccare il paese. Sì, ma com'è che ha definito Grillo i cosi, i saggi? Ma sono 10 badanti, badanti. Ma come badanti? Dei poveretti, 10 zombie, 10 morti che camminano, 10 incompetenti, 10 vecchi con il catetere che camminano, che vagano per il Quirinale, basculano per il Quirinale senza fare un cazzo. Ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo se non vuoi vedermi intorno? E allora ripeto, cari ascoltatori, intervenite all'800240024 soprattutto per dirimere una questione. Un politico importante ha ingravidato la cameriera. E la moglie lo ha buttato fuori di casa. Chi è questo politico? Chiamate, chiamate, chiamate. Un altro. Altro tweet, eh? Un altro politico ex importante è stato mollato dalla compagna e ora è ricoverato in stato di depressione acuta. Titoli del TG3, stupendo, stupendo! Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano in sedia ai saggi, 8-10 giorni per i risultati, bloccato dalle rigidità dei partiti, reazioni sconcertanti alla mia scelta. Bersani, l'unica via è il governo di cambiamento, no al governissimo, alle elezioni anticipate per il Colle e larga convergenza. Alfano dal PD, non vedo nessun passo avanti, se resta lo stallo l'unica strada è tornare alle urne a giugno. Grillo smentisce Crimi, Bersani non è meglio di Monti, non daremo la fiducia a nessuno, il Parlamento può cancellare il Porcellum. Via libera al pagamento dei debiti dello Stato alle imprese, ma le regioni potranno anticipare l'addizionale IRPEF. Il fisco indaga sui fondi della Mediolanum controllati da Fininvest e dalla famiglia Doris, in ballo una multa da 350 milioni. Commozione, folla e grande affetto per i funerali di Enzo Iannacci, l'omaggio di cantanti, artisti e della gente della sua città. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Lui dà del pagliaccio a me, mi pare che sia sceso abbastanza. Io gli do del crostar. Sommesso il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist, da stanza la twist. Una botta al polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio. La ride di pollo è uno straccione che non si pulisce i denti, non va dal dentista. La cosa fondamentale è che non fa la pulizia dei denti. Gli puzza l'alito sicuramente. Ma non ce lo vedo da nessuna parte, al cesso lo vedo Cacciari. Mi ha sempre fatto cagare. Sì. Cacciari invece era il filosofo piacione che andava a letto con le sue allieve, illuminandole. Sì, ma sì. Appunto intreccia una che era stata al centro di una clamorosa vicenda berlusconiana. Sì. E su questo lui ha fatto, io ho documenti tali da farlo svenire per tutta la vita. Cioè che documenti hai? Ho degli elementi molto chiari della sua come dire adesione emotiva e sentimentale a questa come dire mantenuta di Berlusconi. L'unica vera forza di Cacciari sono le donne, cioè che piaceva le donne ed era un professore, ha scopato con molte donne, ma per dirvi una cosa, così gli aprite un capitolo nuovo, lui è stato l'amante di una delle amanti di Berlusconi. Beh, musica, caro Parenzo, Che c'è? Che c'è? Oh! No, sto pensando di questa notizia clamorosa, di questo elogio di quel fascista di Le Pen nei confronti di Grillo, tutto ma torna. No, ma è Marine Le Pen, non è Le Pen. Beh, certo, la figlia del signor, è la figlia. Le Pen, vabbè, ho capito, ma c'è anche lui in vita, cioè non è che sia morto. Ho capito, no, perché Marine torna, Le Pen che fa, che Marine Le Pen è il capo di un partito democratico rappresentato nelle istituzioni anche europee, la quale dice a Grillo semplicemente incontriamoci perché hanno delle posizioni comuni sull'euro, di cosa ti scandalizzi? No. Scusa, no, io dico solo tutto torna, chissà come mai il movimento. Io voglio capire quanto si è divertito in questi giorni però Vittorio Feltri. Ciao Vittorio. Ciao, un saluto a tutti. Allora, ti devo far finire nei guai o no? No, diciamo di no. Allora. Mamma mia, perché nei guai? Perché no. Cosa è successo? Vabbè, scusa, i tuoi Twitter indovinelli, cioè non so come li chiama Dagospia, sono diventati ormai un tormentone assoluto. Cioè, un politico importante ha ingravidato la cameriera e la moglie lo ha buttato fuori di casa. Iniziamo da questa cosa qua. Allora, ovviamente, non ho capito, a te che cosa ti hanno detto? Mi hanno raccontato questa storia, ovviamente con maggiori particolari, quindi anche dandomi la possibilità di identificare il personaggio con una quasi assoluta certezza. Ovviamente nei miei tweet non sono potuto scendere in dettagli, ma questo immagino che ma tu partiamo possa da capire. Come sta la cameriera in questo caso? È felice almeno? Beh, che ne sa, questo? Io non so se di che nazionalità è la cameriera innanzitutto. È rumena. Ah, questo è sicuro, rumena. Ottimo. Rumena. Questo sì, è un dato che è stato riferito, è accertato. È stato riferito. Ecco, ma quando tu dici un politico importante, che vuol dire? Di primo piano o un po' in fase ma calante? Di destra, sì, sicuramente non è più al massimo, diciamo, del fulgore, però ancora è un personaggio, è rimasto in Parlamento, quindi è rimasto anche per dire la sua. Sì. Sicuramente non dico che risorgerà, ma avrà ancora qualcosa da dire. Ma è rimasto in Parlamento per il rotto della cuffia? Sì, insomma, ha faticato come molti d'altronde in quest'ultima tornata elettorale, però ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Sì, io ho un nome qui che mi viene quasi automatico, però se lo faccio finiamo come Vittorio? Finiamo nei casini, io penso che si debba evitare questo, no? Sì, lo evitiamolo. Parenzo, tu a chi pensi? No, ma io voglio almeno sapere se almeno la cameriera rumena era assunta con tutti i crismi oppure se era clandestina. Beh, no, ecco questo. Ma mi fai delle domande sindacali e non trovi l'interlocutore migliore. Posso dirti che gli amori ancillari prescindono dai contratti nazionali di lavoro. No, perché sennò chiamavo Landini subito qualcuno. Scusa, ma questo personaggio politico che, come hai detto tu, si è salvato, come altri, perché noi non diciamo niente per non finire nei casini, lo sì, ripeto, no, non diciamo nulla, evitiamo. E questo personaggio qui è un personaggio diventato, no, che era con Berlusconi e poi a un certo punto è diventato contro Berlusconi? Beh, se vuoi che ti dia anche il numero della carta d'identità. No, vabbè, allora, è vero, mi sto vediamo almeno una vocale, compro una vocale io. No, questo no, il gioco delle vocali non si può fare, eccetera. Però è uno che si presenta come molto cattolico, diciamo, no? O no? Beh, sicuramente è un signore che ha sempre difeso la famiglia. La famiglia. Vabbè, sai che quelli che amano la famiglia spesso ne hanno due o tre. Ecco, in questo caso quante ne ha questo signore? Non saprei dirti perché... Anche perché torniamo a questo punto alla carta d'identità. Sì, ecco, siamo più o meno a quei livelli. Siamo a quei livelli lì. Andiamo al secondo. Chi ha voluto capire, capisca. Poi comunque io invito gli ascoltatori, caro Parenzo, siccome è un quiz che ormai è sulla bocca di tutti, almeno nel mondo della politica, non certo tra i camionisti, nostri amati camionisti, che però magari qualche idea se la sono fatta. Allora, camionisti, tassisti, i grandi ascoltatori della Zanzara, persone che in questo momento, come dici tu, Parenzo, anche se sei in Israele, sono lì con le loro amanti, con le loro mogli, con i loro figli sull'autostrada, sul grande raccordo anulare. Telefonate. Secondo voi chi è? Magari avete ragione voi, cioè facciamo un piccolo sondaggio e vediamo se ci avete beccato, così abbiamo dato qualche indizio, ma non indizio serio, insomma abbiamo dato qualche piccolo assaggio. Il secondo politico invece, ecco, perché ex importante? Ex importante perché diciamo non è più nel cono di luce come diceva una volta Eugenio Scalfari, è uscito dal cono di luce almeno in questo momento e pertanto anche se è stato importante, adesso non lo si può definire tale. Anche lui ha avuto, diciamo, trombato a queste elezioni, si potrebbe dire? Non so se si può tanto dire. Tanti comunque, sono diciamo stati che trombati. Non è riuscito a brillare in queste elezioni. E spesso cosa succede? Che se non ti votano gli elettori, ti scaricano anche in casa. E questo poveraccio è stato scaricato e adesso si trova in una situazione di difficoltà psicologica, siamo ai limiti oppure anche oltre i limiti della depressione, questa è un'altra... Addirittura oltre i limiti della depressione, è in cura praticamente? Sì, in cura, d'altronde capita a tutti, sì, per carità, momenti, mica, non è mica. Che ci scandalizziamo di questo, no, il vero problema anche diciamo di costume, cioè, si potrebbe anche usare termine morale, è che un disgraziato che non ottiene più quel successo clamoroso dai lettori e poi si trova in difficoltà anche in casa, lo mettono in minoranza anche in famiglia. Cioè, ma questa allora le donne di questi due politici, ma non è che questi due erano alleati, no, non si può dire questo qua. Chissà. Lì poi è difficile. Sì. Sai, perché poi a volte due personaggi della politica si presentano come alleati, in realtà puntano sempre il coltello tra le... Magari si odiano, sì, magari si odiano. Un po' così. La vogliamo dire chiaramente, Parenzo, tu forse da Israele non te ne sei accorto, ma questa storia dei saggi è o non è una buffonata clamorosa? Anche tu riconoscilo, è una buffonata sesquipedale, diciamolo, ecco perché non è che nessuno di noi, per fortuna, almeno quelli che siamo qui, ha il mito di Re Giorgio, non è che c'è l'infallibilità, no? Ma assolutamente è una buffonata, diciamola, una buffonata. Poi per carità, prendere tempo, i partiti che non si mettono d'accordo, il PD che non vuole il PDL e il PDL che vuole per forza il Quirinale perché il PD si è preso le altre camere, perché il Quirinale dura 7 anni e dunque è inamovibile, tutte cose legittime, per carità. Grillo che parla di Bersani come un puttaniere e Gargamel e quello ancora cerca di corteggiarlo, tutto quello che volete. Ma in Italia non si capisce perché, al di là del semestre bianco, se le elezioni a un certo punto non producono una maggioranza, non è che ci vuole per forza, non è che bisogna insistere, cioè si va alle elezioni, come in tutti i paesi, le elezioni non funzionano, si va da nuove elezioni. Vabbè, comunque abbiamo dato altri indizi, Vittorio, senza pericolo di essere... No, ma noi non abbiamo di finire fatto nei casini, nomi, no? Non abbiamo fatto allusioni, siamo stati molto sobri. Come di solito non siamo. Guarda che però questa cosa dei saggi non bisogna sottovalutarla, perché cosa succederà? Che intanto trascorreranno un paio di settimane prima che i saggi si rendano conto di essere stati inutili e nel frattempo si procederà alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il quale non scioglierà le Camere immediatamente, le stesse Camere che lo hanno appena eletto, se non altro dovrà compiere un atto formale, cioè richiamare Bersani e pregarlo di fare un secondo tentativo. Forse, chissà. Questo è il piano che io vedo. Sì, sì. E dopodiché lì potrebbe succedere di tutto, perché Bersani punterà non soltanto su quelle persone che lo avranno aiutato ad eleggere al Quirinale un amico, esattamente come è avvenuto al Senato, ma confiderà anche nella non voglia da parte di tutti in Parlamento di tornare a casa per affrontare nuove elezioni. Cioè, tu dici che a questo punto, per il percorso che è stato messo, tornare alle elezioni sarà complicato. Tu sai che quando uno conquista un seggio, prima di mollarlo si fa anche ammazzare. No, ma infatti io non ci credo alle elezioni ravvicinate in Italia, non ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto, un po' per quello che dici tu, per il fatto che i parlamentari sono molto conservativi in Italia, una volta che sono entrati poi difficilmente mollano. Ma poi qualche traditore si trova strada facendo che ti possa dare quei 20 voti che consentono di andare avanti almeno un annetto, io penso che succederà. Ma come si fa a mettere incinta la cameriera? Bisogna essere proprio cretini, Bisogna essere cretini, bisognerebbe dire a questi signori. Per carità, mica perché la cameriera abbia meno non è un problema di cameriera, è un problema che fare l'amore senza preservativo comporta il rischio di ingravidare la signora o la signorina, e questo secondo me va evitato. Ma sai, se è vero che uno è, magari che uno di questi politici è nell'ambito cattolico, come abbiamo detto, magari l'uso del preservativo è vietato dalle sacre. Certo, è contrario al preservativo, ma non all'ingravidamento. Sì, ho capito. Allora non l'ha usato perché dice no, il Vaticano la non vita, vuole. Viva la vita! Viva la vita, per cui uno dovrebbe. Viva la vita, però adesso so cazzi, come si dice. Viva la Romania in questo adesso caso. Adesso la vita diventa più dura, però. Adesso sono Chezzi, come direbbe Lino Baffi, sono Chezzi. Ciao Vittorio, a presto. Ciao. Allora, un gentile ascoltatore scrive: senti Parezzo, come prevedibile il soldatino Cruciani, siccome il suo capo sostiene di avere un mezzo punto in più di gradimento, punta alle elezioni. Che patetico fantoccio, la febbre da cavaliere non passa mai, è bisognosi di attenzioni, povero. Ma lei è un povero cretino, lei è un povero imbecille, lei che scrive, però ha tutta la libertà di scriverlo e di lanciarci addosso pietre, lei però è un povero cretino. Tito dalla provincia di Rimini, adesso non cominciamo la ridda di voci, dopo l'intervento di Feltri. Tito, provincia di Rimini. Ma io scherzo. Tutti, no, la premessa è questa: prima di iniziare questa ridda di voci su chi sono i politici di Feltri, non ci querelate dopo, perché trattasi di gioco. Dopodiché, dal gioco alla realtà, magari il passo è abbastanza breve. Tito? Sì. Dunque? Secondo me è quel furbetto di Brunetta, c'ha un po' quella... Brunetta poi ma che dice? Ma ha sentito in ambito cattolico, eccetera. Chi è cattolico? Non è Brunetta. Secondo me non è Brunetta, io non lo so, secondo me non lo è. Poi io mi sono fatto un'idea che non dirò, ovviamente, perché non si può dire, perché altrimenti uno viene querelato. Molto semplice. Non voglio finire nei casini. E vabbè, ma allora dopo ci finisce chi lo indovina. Ma no, chi lo indovina? No, no, l'ascoltatore è libero di dire quello che vuole. Nei bar si può parlare in libertà. Ha capito? Cioè, qui è come un bar, però noi abbiamo un altro ruolo e qui non è che posso dire secondo me è questo piuttosto. Magari lo posso dire, però poi gli avvocati, le cose mi chiamano, no, non si può fare, eccetera. Una cosa che si dice nel mondo politico, che Feltri ha riportato in un tweet e che adesso sta scatenando un po' di curiosità. Cari camionisti, cari tassisti, cari cittadini, cari pendolari, tutti voi che siete all'ascolto, Daniele della provincia di Latina. Buonasera. Pronto, buonasera. Vada. Senta, io volevo intervenire sul discorso dell'invito che avete fatto alla signora Moretti, perché trovo assurdo che dopo 4-5 giorni ancora non si sia sentita l'altra parte, cioè il sindacato di polizia. Qual è il sindacato? Il COISP, il famoso COISP, ma non c'è nulla da dire per il COISP. Hanno fatto una manifestazione in cui hanno sostenuto che cosa? Che quelle persone non devono andare in carcere, non devono, e devono essere reintegrate nella polizia, cosa che peraltro hanno ottenuto. Però sarà d'accordo con me che comunque sia, ancora oggi vengono tacciati che vogliono, che hanno manifestato contro la signora, contro sotto le finestre della. Beh, diciamo sotto le finestre che insomma, sapevano dopo in una conferenza stampa assieme al questore. Sì, ho capito, sapevano benissimo che la signora Moretti lavorava lì. Assolutamente in quel posto. No, ma perché non si riesce a capire questa mistificazione, questa della cosa? Perché alla signora Moretti gli è sempre stata piena solidarietà, e cioè vogliate figurarvi se un appartenente a polizia stato non è solidale con una madre che perde un figlio a quelli da là, cioè è assurdo. Quindi per me. Guardi, tra l'altro, scusi Daniele, lei è un poliziotto? Sì, esatto. Il problema è che spesso succede anche con i giornalisti, non succede solo con i poliziotti, anche per cose gravi, non si preoccupi, a parte alcuni che vengono invece massacrati. C'è una protezione da parte delle proprie categorie di appartenenza, che io odio, che io non sopporto, cioè il coprirsi l'un l'altro, che viene quasi automatico, no? Cioè, per cui lei dice perché non si dà lo stesso spazio, ma a parte che non è un obbligo dare lo stesso spazio, quelle persone hanno fatto una manifestazione, secondo me sapevano benissimo che là c'era la madre di Federico Aldrovandi. Ma al di là di questo, uno può fare tutte le manifestazioni che vuole, il problema è uno solo, che il capo di quel sindacato, del COISP tra l'altro, ha detto anche che quella foto è taroccata, la foto che ha portato poi fuori la signora Moretti. Lei si rende conto o no? Che è partita all'improvviso, è scoppiata, e poi tutti i mass media, informazione, giornali, televisioni gli sono andati appresso. Però la cosa assurda è che appunto 5-6 giorni dopo si poteva sicuramente fare chiarezza intervistando, risentendo il capo, leggendo i comunicati di stampa che vengono fatti. E troviamo veramente assurda questa cosa qua. Ripeto, ma troviamo chi? Lei non parli, troviamo chi? Troviamo. Tutti i poliziotti. Ma tutti i poliziotti chi? Lei ha fatto un sondaggio, lei rappresenta se stesso, cioè lei non è che rappresenta la polizia, lei rappresenta Daniele, certo, della provincia di Latina, che è un poliziotto, la cui opinione ovviamente conta, che stiamo ospitando, ma lei è un poliziotto e uno. Gli altri, certo, non è che tutti i poliziotti la pensano così, no, lei la pensa così. Cioè, io la penso così, come comunque sia, voglio dire, le sento anche altri colleghi che sono rimangono scioccati dal fatto che non venga dato lo stesso spazio al sindacato di polizia, che è stato tirato. Ma non è vero, è stato dato spazio, è stata fatta la manifestazione. Non abbiamo ascoltato nessun mass media, nessuna televisione, nessuna radio, nessuna, anche nei programmi vostri, che io ascolto tutti i giorni, insomma, è sempre invitata la signora Moretti, non è mai stato. No, veramente, io l'ho invitata per la prima volta, la signora Moretti, io rispondo per me stesso. La programmazione giornaliera più volte l'ho ascoltata. Rispondo per me stesso, per quello che mi riguarda, non rispondo per altri. Se non hanno chiamato il COISP, hanno fatto male, secondo me, per quello che riguarda la cronaca. Per quello che riguarda una trasmissione, io sono libero di chiamare chi voglio, non devo fare nessun bilancino. Grazie, Daniele. Massimo da Roma. Sì, buonasera. Dica. Niente, volevo chiedere se per caso questo politico che è andato con la cameriera, no? Sì. Se ha a che fare con Las Vegas. Con Las Vegas. Ah, lei dice con i giochi, sì, con i giochi. Sì, con i giochi, le donnacce. Le donnacce in che senso, no? Ah, le donnacce, sì, ho capito. Sì. Guardi Massimo, non lo so. Secondo me è quello. Cioè, chi è, scusi? Ma com'è Las Vegas? Chi è? Ma non mi va di dirlo. Comunque. No, ma lo dica, non è un problema, lo dica. Secondo lei è questo quello che ha detto Feltri? Quello che ha detto Feltri è quello. Piccoli casi. Piccoli casi, cioè Casini secondo lei? Sì. Ah, ok, secondo lei è Casini. Benissimo, Antonio dalla provincia di Bari. No, Antonio dalla provincia di Bari. Ciao, caro, senti. Ciao, secondo Antonio. Secondo me è Pier Ferdinando, secondo me è lui. Sì, il primo. Poi c'è dato il primo, c'è dato il primo individuato da Feltri, dici, no? Sì, ma perché poi tu ci stai dando grandi aiuti. No, io no, io no. Nei casini. Ma non quello che c'entra, non voglio finire nei casini, nel senso è con la C maiuscola, è con la C minuscola, scusi. Con la C minuscola. Va bene, ok. Secondo me comunque è Pier Ferdinando. Secondo lei è Pier Ferdinando? Perché lo chiama? Diciamo perché lo chiama? Perché lo chiama? Non diciamo così. Follia. Perché lo chiama Pier Ferdinando lei? Devo dire per forza anche cognome? Non credo. No, però Antonio? Sì, lo può dire anche. Qui non siamo mica in una. Pier Ferdinando Casini. Ah, no, perché lei lo chiama per nome? Nel senso, pensavo avesse un'intimità con il signor Casini. No, assolutamente. No, però comunque tra i politici mi sembra la persona che comunque possa dare più. Cioè, che corrisponde a un minimo di identikit fatto da Feltri, dice lei, no? sì, anche diciamo pure una cameriera, voglio dire, sarà. Ma la cameriera è quella di tanta gente. No, dico, sarà sicuramente una bella ragazza. Quello non lo so. Allora, dai, è rumena, sta a casa di un politico, vuoi vedere che si prende una racchia. Beh, ho capito, ma adesso quello chi se ne frega, cioè sia racchio o bella la cameriera del politico interessato a questa vicenda, che avrebbe ingravidato la cameriera stessa, perché di questo stiamo parlando, ed è stato cacciato da casa. Comunque credo di aver beccato. Sì, ma non si vince nulla, cioè Antonio, al massimo si vince una citazione in tribunale, questo è il punto. Siamo amici e paga chi ce ne ha di più, pago io, è la vita che mi ha spinto un po' più su, pago io. Ciao Calippo, grandissimo! Non c'è Dio che quantifichi. Ma hai saputo, sì, Parenzo, sì? Del funerale del Califfo, come no? Beh, hai saputo di tutto, sì. Io me lo ricordo in una cena dove l'abbiamo incontrato, ti ricordi? Un po' sofferente, ma sempre vivo, sempre grande combattente. Sì, ricordo una cena a casa di Melania Rizzoli, quel Califfo. Sì, sì. Una vita fa e ancora qua. Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Se l'è divertita però, se l'è goduta questa vita, signor Califano. Sposato a lui. Abbiamo con noi un personaggio molto gradito in ambito 5 stelle. Alcuni lo indicano, caro Parenzo, come un possibile candidato del Movimento 5 Stelle che farà tutta questa operazione via internet, come sai? Come possibile candidato alla presidenza della Repubblica. Si tratta di Ferdinando Imposimato, magistrato, ex senatore. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Come sta, caro Imposimato? Io abbastanza bene, sono sempre molto impegnato e quindi combatte come un leone, eh? Sì, bisogna battersi, non si può stare fuori dalla politica, non si può stare lontani. Ma lei quanti anni ha, scusi, signor Imposimato? Io ho 78 anni. 78 anni, uno e due in più di Berlusconi, cioè è una cosa pazzesca. Quasi coetaneo di Berlusconi, anzi è coetaneo di Berlusconi, mica si vergognerà. Beh, insomma, credo che poi dipende da come uno riesce a resistere al tempo. Io, per la verità, sono anche ancora oggi abbastanza lucido. Ah, lei dice io sono lucido. Il signor Berlusconi, insomma, lei dice che ha perso un po', diciamo, la Trebisonda. Sì, senta, mi dica. Alzare un po' il volume della. Alziamo il volume. Sì. Alziamo sto volume? Sì, alziamolo. Sì. Cercheremo di parlare anche più forte, cioè Imposimato. Senta, ma lei se dovesse uscire fuori come possibile candidato via internet da parte dei militanti del 5 Stelle, si candiderebbe volentieri al Quirinale? Beh, guardi, io ho scoperto questa cosa anche con grande piacere, è inutile negarlo, a me farebbe molto piacere, ma credo che la cosa sia un po' difficile da realizzare. E perché? Perché il meccanismo è molto semplice, lì decide, come tutti sanno, il Parlamento in seduto comune, vabbè, con la partecipazione, certo. Quindi non so se il Parlamento non abbia altri candidati più autorevoli, più importanti. Vabbè, quello si vedrà, sto dicendo, se a un certo punto uscisse fuori il suo nome nella consultazione online che farà il 5 Stelle per la presidenza della Repubblica, lei non direbbe di no? Cioè, no, io non direi di no e sarei immensamente felice di questa scelta, per me è un onore e un privilegio, sì, accettare, avere questa scelta, essere investito da questa scelta, perché sicuramente 5 Stelle sono una forza politica molto importante, sì, che ha portato una ventata di rinnovamento vero nella politica italiana, a cui io ho dato la mia adesione alle ultime elezioni, ho fatto addirittura un appello prima del voto, quindi sì. Credo che insomma, ma lei ha mai parlato con Grillo di questa cosa qua? No? No, non ho mai parlato con Grillo, perché anche per una questione di rispetto delle sue scelte, insomma. Sì, sì. E con Casaleggio? No, nemmeno. Nemmeno. Io ho avuto il privilegio di fare qualche intervista, sì, per Grillo, diciamo, per la questione dell'alta velocità, sì, e di altre, per altre cose, l'attentato al Papa, insomma, questioni, sì, di carattere così, insomma, anche di carattere politico, ma anche che riguardavano la criminalità organizzata. Ho fatto delle interviste, credo che sia venuto qualcuno mandato da Casaleggio oltre che da Grillo. Sì. E quindi... Però non ho mai avuto contatti né con Grillo né con Casaleggio. No, Casaleggio no, ma con Grillo ogni tanto ci facciamo dei brevissimi colloqui di pochi minuti, pochi secondi. Con chi? Con Grillo. Ah, con Grillo, cioè vi sentite ogni tanto per telefono? Sì, ma insomma diciamo sono delle cose che io gli chiedo, lui mi risponde. Sì. Ma chi chiama lei quando deve chiamare Grillo? Scusi, per curiosità. Io ho il suo cellulare. Ah, lo chiama, che gli manda un messaggio? No, io gli mando il messaggio e poi oppure lo chiamo direttamente, ma ripeto, questo è avvenuto una volta ogni 6-7 mesi. No, certo, per carità. Però sì. No, è curiosa la cosa, perché sa che adesso c'è una sorta di impenetrabilità, no? Del giustamente, perché no, ma io devo dire la verità, ogni volta che gli chiedo, per esempio, io gli ho detto che l'idea di fare una specie di scuola per l'insegnamento della Costituzione, richiedere il requisito della conoscenza della Costituzione per quelli che decidono di fare politica, mi è sembrata una cosa giusta, insomma, sì, che, sì. E quindi gliel'ho fatto sapere, lui mi ha risposto, mi ha detto sì, ha detto che bisognerebbe. Sui singoli problemi interveniamo, su questo. No, no, certo, no. Comunque qualche volta ho avuto delle conversazioni di pochi minuti con Grillo. Qualche volta faccio una conversazione di pochi minuti, gli ho chiesto così dei consigli, perché c'erano dei gruppi, sì, che volevano nascere, non sapevano, sì, cosa fare, e quindi lui mi ha detto quali erano le regole. Ma sull'accordo con lei ho letto, sì, il suo programma, sì, sì. È un po' più complicato capire bene quali sono le regole, ma le regole sono abbastanza semplici, cioè sorgono, sì, dei gruppi spontanei. E vabbè, certo. Quindi... Scusi, Imposimato, ma lei gli ha parlato anche di questo, della questione dell'accordo col PD, eccetera, lo ha consigliato da questo punto di vista? Per la verità, quando parlo con lui lo faccio attraverso internet, cioè faccio degli appelli e più volte gli ho chiesto, sì, di tentare di fare tutto il possibile per arrivare a un accordo con il PD. Però mi pare che la cosa non sia realizzata, ma per la verità non sia realizzata soprattutto perché il PD non è molto preciso e concreto nelle sue cioè la colpa è del PD, dice lei, la colpa è del PD secondo me, sì. Perché non si possono dire delle cose generiche tipo bisogna fare la riforma elettorale, sì, ma come? Oppure bisogna fare la riforma del finanziamento pubblico dei partiti, ma in che misura? Sì, e quando, con che tempi, tutto? Una riduzione dell'IMU, ho letto, sì, ultimamente che queste erano le tre cose a cui teneva molto Grillo. Il PD, però mi sembra una cosa un po' evanescenti, sì, per cui riesce veramente difficile a Grillo e al Movimento 5 Stelle appiattirsi, aderire, dare, sì, la fiducia, sì, se non c'è una serie di obiettivi chiari e precisi e concreti. Ma anche secondo lei Grillo, anche secondo lei Bersani è uno dei puttanieri del paese, come l'ha descritto Grillo, Gargamella, eccetera, la prova questo tipo di linguaggio? No, questo lo escluderei, questa cosa, che perché Bersani è una persona molto, molto moderata, molto prudente, molto per una persona che non mi sembra che sia un puttanio, almeno è un termine che ti dicono, insomma, non è questo il problema. Il problema è che bisogna fare politica cercando di definire bene gli obiettivi, e perché gli accordi non si fanno in bianco, si fanno sulla base di e invece diciamo la verità, Bersani condivisi, e Bersani l'ha provata fino ha cercato di raccattare così, diciamo, la fiducia senza offrire moltissimo. No, questo no, no, perché altrimenti si perderebbe Grillo sarebbe sconfitto alle prossime elezioni, che lui non può tradire il suo elettorato, sì, cioè se lui, sì, si appiattisce sulle, sì, posizioni del PD, che non si sa che cosa vuole, anche per quanto riguarda il conflitto di interessi, perché è una legge fondamentale in difesa per lei, secondo lei Berlusconi è ineleggibile? Assolutamente ineleggibile, l'ho detto 70.000 volte. Adesso leggo che Onida vuole, insomma, così fa parte dei saggi, però è uno di quelli che dice che Berlusconi è eleggibile, no? Questo, sì, non esiste proprio, perché la legge è chiara, la legge del 57. Beh, sì, insomma, 20 anni dopo. Chi è titolare di anche di una sola concessione, sì, ma dice no, ma quello però non era titolare formalmente. Sì, ma la legge si riferisce a chi controlla direttamente o indirettamente una concessione, sì, non è che pretende che vi sia una titolarità. Sì. Diciamo, no, ma ho capito perfettamente. Parenzo, lo sai che Imposimato è stato anche giudice di Forum? Peraltro. Ma come no? Beh, Imposimato intanto ha fatto tutte le inchieste anche sulla vicenda Moro. Beh, si è pentito di fare di aver lavorato a Forum. Sì, ho lavorato, ma ho parlato sempre della Costituzione Repubblicana. No, per carità, ma io non sto mettendo in dubbio, però sei un po' pentito di aver fatto quell'esperienza a Mediaset. Sì, ma è una esperienza che ho fatto in assoluta libertà. Ma quanti soldi le dietro? Un sacco di soldi le dietro per fare quella roba là. No, ma questi erano proprio dei compensi quasi di fame, diciamo. No? Ma come compensi di fame? Come? Imposimato. Addirittura. Erano 300 euro per trasmissione, facevo due alla settimana, insomma. Beh, ho capito, cioè, compensi di fame. Sì, erano comunque poi erano tutti, togliendo poi le tasse, le cose eccetera, non era, rimaneva poco rispetto alle somme iperboliche che prendono gli altri. Questa era una cosa da fame, insomma, sicuramente non era, ho per capito, quello che io ho lavorato per cercare di fare anche un'esperienza nel campo mediatico, diciamo. No, ho capito, però si è un po' pentito di aver lavorato per Berlusconi, comunque nelle reti di Berlusconi. No, io non ho lavorato. Scusa, lei dice ho lavorato per Mediaset. Ho capito, ma è uguale. Per Berlusconi, su, impossibile. Adesso diciamola tutta. Sì, per Mediaset, poi dopo, e poi mi sono dimesso e me ne sono andato. Ho capito, però lei alcune male c'è da Rapimento Moro a Forum, va benissimo, perché non, diciamo, nel periodo in cui ho lavorato non ho mai rinunciato alla mia assoluta libertà rispetto a questa. No, per carità, però... Quindi, anzi, forse sono stato anche troppo reattivo rispetto alle cose fatte da Berlusconi. In ogni momento non ho mai tralasciato occasione per dirgli. Senta, ma fosse per lei al Quirinale, chi ci andrebbe, Imposimato? Come? Fosse per lei al Quirinale, chi ci andrebbe? Imposimato? Ma io farei andare una donna capace, insomma, vorrei che anche lì che ci fosse una persona che è nuova rispetto ai soliti dinosauri che vengono proposti come D'Alema, come Prodi, insomma persone che secondo me hanno fatto il loro tempo e soprattutto hanno dimostrato di non saperle, di non voler difendere la democrazia, perché la legge sul conflitto di interessi che doveva essere fatta allora, che è importante, perché non è stata mai fatta, lei dice, non l'hanno mai voluta fare, soprattutto poi sono quelli che hanno portato anche il paese al disastro, perché il debito pubblico si è aumentato notevolmente. Allora, Parenzo, 800 24 00 24, io vorrei chiedere a Imposimato, che ha fatto grandi inchieste, una risposta sul quiz del giorno, che lo so che è molto terra terra Imposimato, però insomma, lei conosce il mondo dei media. Vittorio Feltri su Twitter ha lanciato questo quiz. Il quiz è questo: un politico importante ha ingravidato la cameriera e la moglie lo ha buttato fuori di casa. Poi ha aggiunto Feltri: la cameriera era rumena, il politico è di ambito cattolico, si è salvato per un pelo come altri alle scorse elezioni. Chi è? Secondo quiz feltriano, un altro politico ex importante è stato mollato dalla campagna e adesso è sotto terapia. Vabbè, il primo chi è? Imposimato? Lei si è fatto un'idea di chi possa essere il primo? Più o meno ho un'idea, però preferisco non dirlo. Ah, beh, certo, perché qui il pericolo... Qual è il reato? Qual è, sarebbe il reato? Se uno lo dice, che reato può commettere? Imposimato? Si potrebbe con violazione della privacy oppure diffamazione, insomma, cose di questo genere. Sì, è possibile. Lei è pronto a difenderci eventualmente? Penso che non sia il caso di mettersi nei guai. Così, nei guai. Problema. Non è il caso ma di mettersi nei guai. Voglio dire, una cosa è... E parlare criticamente di una persona, altra cosa è poi coinvolgerlo in questi fatti che sono fatti così privati, diciamo. Privati, sì. Privati. Beh, d'altra parte è anche avvocato Imposimato, lo sai, no, Parenzo? Certo, sì, come sì, no. Ha difeso anche la famiglia Orlandi. A proposito, è ancora il difensore della famiglia Orlandi, in qualche modo rappresentante legale della famiglia Orlandi? Sì, io sono ancora il difensore, mi onoro di essere il difensore della mamma di Emanuele Orlandi. Della mamma. Senta, ma è rimasto sempre dell'idea che sia ancora viva Emanuele Orlandi? Io sono convinto che sia viva questa ragazza, perché è stata seguita, sì. Diciamo, la sua esistenza è provata da diverse testimonianze che hanno provato che essa è stata vista in, sì, Germania, a Ulm, in più occasioni, e per questo abbiamo anche scritto, io con la famiglia Orlandi, una lettera, certo, a Benedetto XVI, e credo che Benedetto non abbia mai letto questa lettera, perché qualcuno gli ha impedito di leggerla. Questo è un fatto molto grave, di cui molto ci grave, siamo, sì, doluti, io, sì, la mamma e anche... E dove sarebbe? Viva, ma dove? Dove dovrebbe stare? Secondo me sta sicuramente in Medio Oriente. E che fa? Sta con un compagno, con uno dei suoi rapitori. Con uno dei suoi rapitori. Con cui ha creato una famiglia, insomma, almeno questo secondo le testimonianze di persone che ho sentito e, sì, che abbiamo sentito. Ma scusi, mi dia qualche indicazione, perché io mi trovo in Medio Oriente ora. No, è in Israele, Parenzo, ma non è in Israele. No, in Medio Oriente, in Turchia dovrebbe stare. Ah, in Turchia. Scusi, sì, ma perché se sta lì uno non la va a prendere, non la va a cercare? È vero che la Turchia è grande, però secondo me ormai lei è diventata un'altra persona, non è più la Emanuela di 15 anni che aveva così interesse a rimanere per lei, si è creata tutta un'altra famiglia, vive in un'altra dimensione. Io, sì, sono convinto che dunque lei non è dell'idea di una lobby, diciamo, gay. Ci sono diversi segnali in questa direzione, non è che sia, insomma, una cosa campatinaria, no, per carità, però insomma addirittura in Turchia, sì, con, sì, un'altra famiglia, dire, non c'è la prova che siamo, ecco, mentre per l'altra purtroppo ci sono poche speranze, l'altra ragazza che pure che è stata, sì, rapita. Però scusi, dottor Imposimato, ma si parlava in questi giorni di una lobby gay, no? In Vaticano, che sarebbe dietro al rapimento dell'Orlandi, secondo lei? Lì nel rapimento dell'Orlandi sicuramente ci sono stati dei basisti dentro il Vaticano, questo è sicuro. Basisti dentro il Vaticano, basisti, sì. Basisti, cioè persone che erano complici, sì, e che hanno dato le informazioni sui movimenti della ragazza, ma pensi che prima di rapire Emanuele Orlandi, sì, erano state pidinate altre ragazze che erano in Vaticano, che erano le figlie di Gugel, Angelo Gugel, e poi c'era la figlia di Camillo Cipin, il capo della polizia, una cosa pazzesca, mai è provato. Però scusi un attimo, Emanuele, sì, è stata rapita come il ripiego per il fatto, sì, che non era stato possibile rapire le altre ragazze che si erano accorti di essere pidinate. Questo ormai è un fatto accertato in maniera, sì, matematica. Scusi un attimo, attraverso le indagini dei carabinieri. Certo, e non ho capito. E dunque, secondo lei, non è stata violentata, come si dice, no? E poi uccisa? No, guardi, in questi casi la violenza carnale è presunta, cioè una persona rapita, anche se dà il suo consenso, sì, al rapporto sessuale con il rapitore, viene considerato come vittima di una violenza carnale. Vabbè, certo. Quindi praticamente questo sicuramente l'abbiamo configurato anche in altri casi dove c'era, mi ricordo, una ragazza, sì, in Italia che è stata rapita, che ha voluto avere rapporti con uno dei suoi, sì, rapitori. Però scusi, passando ad un'altra cosa, sai che recentemente Parenzo Imposimato ha detto una cosa clamorosa, ha detto che dietro molte stragi italiane, quelle che non sono mai state chiarite, sì, c'è il gruppo Bilderberg. Questa è una, no, cosa. Sì, il gruppo Bilderberg. Chi l'ha detto questo? Imposimato. Sì. Ma non è possibile. No, non è possibile, Imposimato, su. Guardi, questo l'ho detto, ma non solo l'ho detto, l'ho scritto. E beh, ho capito, però il gruppo. Perché ho trovato un documento che mi ha lasciato sgomento. Pure Borghezio lo dice. Che era un documento che era allegato alla requisitoria di Emilio Alessandrini, che io non avevo mai letto. Sì. In questo documento, quando si parla di stragi, si parla del gruppo Bilderberg. Ora, questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché intanto dove era questo documento? Questo documento era, sì, in possesso di un terrorista di ordine nuovo, di Ventura. Certo. Ma questo che vuol dire, Imposimato? Lei no, è sicuro, lei no, può affermare con sicurezza che il gruppo Bilderberg è dietro le stragi in Italia? In questo documento si parla della strategia della tensione. Vabbè, sì. E si dice quali sono i gruppi che alimentano la strategia della tensione. E tra questi? c'è Bilderberg. Quando io l'ho scritto, io ho copiato integralmente le cose dette in questo documento. E lei ci crede? Che mi è stato consegnato da Gerardo D'Ambrosio. Lei ci crede a questa cosa? Cioè lei crede che il gruppo Bilderberg... Io credo a quello che si dice in questo documento. Questo documento, secondo me, quando l'ha letto per la prima volta Emilio Santelli, non ci ha creduto. Poi io ho potuto fare una verifica ex post, cioè ex post, alla luce delle cose scritte nel 1967, dico sempre. Insomma, secondo lei il gruppo Bilderberg è dietro le stragi italiane, cioè ha alimentato la strategia della tensione. Ma è uno di quelli che uno di quelli, uno di quelli, sì. Uno dei soggetti che sono dietro le stragi, non è solo Bilderberg. Certo, però scusi, certo. Bilderberg è diciamo una specie di grande fratello, che un soggetto che sta al di sopra di questi, sì. che manovra, sì. che si serve di terroristi neri, Bilderberg, di sì. massoni, che si serve della spectre di uomini politici, c'è una specie di spectre, il male più assoluto. Spectre. Ripeto, quando io ho scritto Bilderberg, sì. mi sono limitato a riprodurre le cose scritte in un documento, però lei ci crede, molto dice. Importante. Scusi, sai che c'è stata questa polemica oggi tra Crimi e una parte, cioè in realtà polemica, Crimi ha detto per me Bersani era meglio di Monti. A un certo punto Grillo ha risposto sul suo blog dicendo Monti è uguale, Bersani è uguale a Monti. Per lei i due sono uguali, Monti e Bersani? Ma per la verità credo che Bersani è meglio, responsabilità comuni, insomma, ma non credo che siano uguali, perché tra l'altro dico la verità, ma Monti almeno ha una certa capacità di capire l'economia, non credo che abbia Bersani, non perché voglio fare la propaganda a Monti, ma anche perché fa parte diversi. Di Bilderberg. Anche se poi hanno condiviso molte scelte sbagliate, per esempio non hanno fatto le riforme in materia di riduzione delle spese elettorali, sotto questo aspetto insomma i due hanno agito in maniera... Senta, se lei fosse eletto, mettiamo una follia, no? Imposimato al Quirinale, cioè follia, cioè una cosa clamorosa, no? Follia no, ma una cosa clamorosa. La prima cosa, qual è la prima cosa che farebbe? Riaprirebbe tutti i dossier sulle stragi in Italia? Cosa farebbe da capo? Guardi, io farei, io non potrei fare nulla perché il Presidente della Repubblica non può fare niente, però solleciterei il Parlamento ad adottare una serie di provvedimenti per la redistribuzione delle ricchezze secondo il principio di equità. Vabbè, ho capito, questa è una roba da Partito Comunista Sovietico. Quindi cercherei di trovare le risorse attraverso la riduzione delle spese elettorali, la riduzione delle... Vabbè, ma lei non farebbe le commissioni d'inchiesta sulle stragi in Italia ancora? Ma anche quello, però quello è un fatto importante, perché le stragi sono state commesse ma sono impunite, cioè quelli che l'hanno commesso sono ancora liberi e di ripeterle. Adesso questa minaccia fatta a Nino Di Matteo è una cosa che mi allarma molto, sì, perché questo magistrato antimafia, sì, questo fatto di cui parlo, sì. un solo giornale che è il Fatto, sì. quotidiano, mi veramente mi preoccupa. Senta, per chiudere, Imposimato, lo voglio dire una cosa, ma davvero sinteticamente lei pensa che Falcone e Borsellino, come ha scritto una volta, siano morti perché indagavano sulla TAV? Guardi, io le dico che Falcone e Borsellino sono morti per più moventi. Vabbè, uno dei moventi. Uno di questi era perché avevano capito quali erano i soggetti che erano dietro i grandi appalti pubblici, quindi anche la TAV. Loro avevano scoperto chi manovrava questi gli appalti sulla TAV. Quindi Falcone e Borsellino sicuramente, che io conoscevo e con cui ho avuto frequenti rapporti fino a poco prima che morissero, avevano scoperto che negli appalti pubblici c'erano la mafia e alcune grandi imprese del nord che erano assolutamente... Ma anche sulla TAV, dice lei, anche sulla TAV. Sì, anche la TAV poi era una delle grandi opere, sì. dove erano stati... Senta, invece su un altro fronte, pensi che il 90% delle somme destinate alla realizzazione di questa grande opera pubblica andavano in mazzette divise tra affaristi, camorristi, delinquenti, criminali. Solo il 10% delle somme nostre, delle somme destinate alla grande opera pubblica, servivano per fare l'opera e per pagare gli operai. Questa è una cosa che mi ha colpito molto. Io feci la relazione che non venne mai discussa dal Senato. e secondo me il Parlamento nel 96 fu sciolto prima per impedire che si dovesse approvare o bocciare la mia relazione sull'alta velocità. Hai capito, Parenzo? Ma ho capito che in mezzo ha rivelato delle cose clamorose, perché allora Imposimato è perfetto per fare con Grillo, è perfetto per fare il presidente lui, certo, che ha fatto inchieste importantissime, diciamo sia quasi innamorato di questo signore che manda a fanculo tutto, cioè è uno scassatore questo Grillo, invece Imposimato ne è giustamente innamorato, quindi Imposimato, grazie, fatto una cosa che io apprezzo molto, ho cercato di innovare nel campo della politica, altrimenti avremmo avuto, adesso abbiamo dei giovani che secondo me sono credibili, puliti, che possono imparare a fare politica, perché la politica si impara col tempo, certo, non c'è dubbio. Non è una cosa che Imposimato, un aggettivo per Berlusconi, come lo definisci? Un mattoide, un delinquente, mi dia un aggettivo per definirlo, secondo Ferdinando Imposimato. Non ho capito, scusi. Un aggettivo per definire Berlusconi, un delinquente, un mattoide, un genio, come lo definisce? Berlusconi è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione. Un delinquente lo definisce lei? Lì sta scritto nella sentenza. Vabbè, in quella definizione, ma lei il tribunale dice un delinquente socialmente pericoloso. E dunque, secondo lei è un delinquente socialmente pericoloso? Secondo me quello che dice il tribunale, sia pure in primo grado, bisogna vedere che cosa dirà la Corte d'Appello. Vabbè, ma secondo lei è vero però? Secondo lei è vero, è un criminale socialmente... È una persona che certamente non è una persona affidabile, insomma, secondo me. Quello, tra affidabilità e però è il recidivo, il criminale io recidivo. Io mi fido di quello che dicono i magistrati di Milano. Bene. Mi attengo ai documenti, quello che penso io conta poco. Quello... Il fatto che io mi sono occupato di Berlusconi già dal 1984. Che ha scoperto nel 1984? Insieme a Falcone e Borsellino. Ho capito, poi però ci ha lavorato insieme a Forum. Ma nell'84 che ha scoperto di Berlusconi? No, nell'84 si parlava di riciclaggio. Sì. E nel parlare di riciclaggio di questo personaggio, che non era ancora nessuno, perché era una persona che era un imprenditore, è venuto fuori poi una serie di fatti. Sì. Che poi sono stati stigmatizzati addirittura da una sentenza del Tribunale di Roma, che ha detto: noi ci meravigliamo per il fatto che non si è proceduto nei confronti di Silvio Berlusconi per il riciclaggio di 20 miliardi, questo è scritto nella sentenza. Per cui un imbroglione fin dall'84. Va bene, grazie Imposimato, a presto. Grazie, a presto. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Cosmo da Milano, buonasera, Cosmo. Ecco, pronto, sono qua, sono io. Qualcuno aspetti un attimo, Cosmo, nome lunare. Qualcuno ha definito Imposimatto. Cosmo, prego. Però qua... Dimmi, pronto? Che c'è, Parenzo, dimmi. No, prima di Cosmico qui, voglio dire che l'altra notizia clamorosa del giorno, da quelle che hai segnalato, è questa roba del signor Padre Amor, del tuo amico Padre Amor. Sì, aspetta, Cosmo. Allora sono qua, allora prima di tirare in ballo Sgarbi, eventualmente Parenzo, vorrei innanzitutto dire che Maurizio Crozza, facente funzioni in favore del PCCD, partito così chiamato Democratico Gargamella Bersani, con il fazioso Fazio, Parenzo è per loro, a me fa schifo, lui è chi gli fa le domande come Florito di Ballarò e finge di riderne, a me fa schifo. Sgarbi è come il cervo che dà del cornuto allo stambecco quando si confronta con Cacciari. Ha perfettamente ragione. Se avete modo di chiamare Sgarbi, vediamo un po' su cosa basa la sua altezzosità. Dategli modo di confrontarsi qualche minutino con me. Ma su che cosa si dovrebbe misurare con lei? Su tutta la montatura, su tutta la sua gradasseria. Io sono uno che della cultura ne fa il pane quotidiano, no? Vediamo un po' la cizia dove sta su questo suo discorso, quali sono i valori. Sgarbi, anziché fare i confronti tra Riccardo e Gargamella, lo chiamatelo adesso. Ma che dice? Ma di che sta parlando? Ma lei è tanto che non ha la marijuana. Allora, io sono quello, si ricorda con Roberto Ortelli, che ha fatto la domanda a Cacciari, è giusto chiamare Cacciari leccaculo? Ma cosa sta dicendo? Parenzo, intervieni tu da Israele, per favore. No, ma voglio dire, scusi, signor Cosmo, volevo capire questo. Lei è da quanto tempo mastica la marijuana? Ascolta un attimo, Parenzo, il discorso è questo. Che no, mi ascolti lei, perché lei è grande. Da quanto tempo fa questa cosa di masticare la marijuana? La deve sputare poi, non ingurgitare. A Cruciani rappresenta una dignità, perché in quanto il sistema non si può definire leccaculo, in quanto lui è parte integrante del sistema stesso, quindi è il culo stesso, come già vi dissi al cospetto di Roberto Stelli, che prontamente tagliò il mio intervento. Ma di chi sta parlando? Roberto Ortelli, di chi parla? Ma si ricorda bene che disse il mio intervento è incommentabile, no? Quindi io sono, ma io la elogio, è coerente, lei come Silvio Berlusconi ha la dignità di rappresentarsi così come effettivamente lei è, e non può dirsi un traditore, perché se lei alla sua consorte o un'altra sa, dichiara che comunque sì, ha delle debolezze per altre donne, partita, e alle quali lei concede il favore delle sue prestazioni, e di cui quando è troppo è troppo, eh. No, ecco, lei non può definirsi, il concetto è chiaro, no? Chiarissimo, ecco, chiarissimo. Il fatto che rispetto a lei è lecca culo proprio, sì, è così come scusi, paziente, Cosmo, io non ho capito una cosa, ma lei è mai stato da uno specialista, da qualcuno che l'ha assistita, e ma si è mai fatto seriamente seguire? Ma le cose serie quali sono? Perdere le cose serie, io voglio capire, lei ha mai pensato, oppure è successo, non lo sappiamo, di farsi seguire da qualcuno? Cioè è sotto, in questo momento lei è sotto cura? Se lo suggerisce, è un consiglio che lei proviene da lei. Quindi reputare che la carta costituzionale è stuprata. Beh, guardi, dalle soglie di sbarramento e premi di maggioranza, che Bersani ha rubato oltre 150 seggi, sì, oltre sì, a quelli che rispettano nella misura dei voti che ha ricevuto, certo, non c'è dubbio, dovrebbe, non c'è dubbio, restituirli. No, ma sì, dai ragione, perché non è che c'è d'accordo. Sì, Cosmo, scusa. Sono tutto richiesto, sì, benissimo. Io le do un consiglio spassionato, sì, se lei ascolta la zanzara. Una parola, curati! Ha capito? Renzo? Che cos'è? Una pernacchia, che ha fatto? Renzo? Sei un leccaculo, Renzo, sei un leccapiedi di Bersani. Scendi dal pascolo al monte, Bersani, vai a tagliare la mortadella di Prodi, mortadella che proviene dal monte, pascolato anche da Matteo Renzi. Sì. Un unico peggiore di Bersani, forse anche Cacciari e Sgarbi sono meglio di Bersani. Hai capito? Ho detto tu, quella situazione è molto grave. Scusi, dove si trova esattamente? Parenzo, cosa vai a fare quelle comparsate lì con il microfonino in mano, di qua di là? Ma ti rendi conto della figura che fai? E dopo vuoi ancora enfatizzare il tuo personaggio? La sostanza qual è? Io credo che questa sera ti legheranno a letto appena ti riescono a prendere. Ma di Sgarbi e di Cruciani. Oh no, ma ti assicuro che ti vengo a trovare, guarda. Amnistia! Anche i condannati devono essere intoccabili, il popolo è sovrano. Ma di che sta parlando? Sì, hai ragione, Cosmo, bravo, in virtù dei voti ricevuti dal popolo, nessuno deve permettersi di toccarli. I processi vanno avanti fino alla sentenza, sospendendo l'applicazione della pena d'arresto fino a che il soggetto non venisse non rieletto alle successive elezioni. Per la governabilità si stabilisca che il Presidente del Consiglio venga scelto a maggioranza semplice, con la possibilità di rimuovere la maggioranza qualificata di 2/3 dei 3/5. Punto, è chiuso. Quindi lì si mettono i capigruppo al tavolo. Elogio al capo dello Stato. Valerio Nida, scusi, questo discorso sulla carta costituzionale è un po' in confusione dal punto di vista. Lui è in confusione. Zelensky, Gustavo Zagrebelsky oppure Giovanni Ferrara. Giovanni Ferrara e altri costituzionalisti che dicono che questa legge elettorale è anticostituzionale. Vabbè, questo l'abbiamo capito, Cosmo. Io, lei stasera che cosa ha intenzione di fare? Parenzo, secondo te qual è la fine di Cosmo stasera? Qual è la... No, stasera adesso vengono lì col camice bianco, lo prendono, lo calmano un attimo, lo mettono in corsia, gli danno una minestrina alle 9:30 e poi credo che ci rivediamo tra un mese per un controllo di rito, ma per un mese rimane lì, eh. Ha capito? Sopranipensieri@eu.com per avere risposte a chiunque piana. Scrivete a sopranipensieri@eu.com per difendere la democrazia. Ma chi è? Viva Beppe Grillo! Vabbè, che però lui non ha mai detto di voler ridurre il numero dei parlamentari, sarebbe il corpo definitivo, il corpo di Mannaia ultimo. Trovate padre Amor per annientare totalmente ogni speranza. Ma lei non di ci vuole, ma per lei non ci va vuole padre Amor. Per lei nemmeno un esorcista va bene, Cosmo. Qui c'è bisogno di altro, veramente di un paio di siringone grosse così al giorno, caro. Guardate, Cosmo. Guardate che io vi dimostro con poche parole. Cosa dimostra? Che l'esorcista è il demonio che si traveste da tale. Sì. Ok, sopranipensieri@io.com. Com'è sopranipe? Cos'è sta roba? Soprani è una semplice mail. Sopranipensieri@io. Sovrani di chi? Sovrani. Ma la devi smettere di dire stronzate. Basta drogarti, basta. Basta droga. Cosmo, arrivederci. Alessandro da Brescia. Sei un personaggio incredibile. Sovrani pensieri. Alessandro. Pronto? Non c'è più. Davide da Napoli. Davide, oh, su, sveglia. Giorgio da Bergamo, andiamo. Cruciani e Parenzo. Chi è questo qua? Chi è questo? Chi è? Giorgio da Bergamo. Sì, dica. Allora, i due quiz sembrano abbastanza facili, uno l'avete già detto voi. Cioè chi è? Non lo so, lo dica lei, io non ho detto non niente. Non lo so, l'avete già... No, lo dica lei, lo dica lei. Un bravo cattolico. Un bravo il cattolico. Il secondo è uno che magari va sott'acqua. Non lo so, lo dica lei. Giorgio, lo cosa vuole lo che... dico io. I quiz li fate voi, eh? Sì, ho capito, però i quiz li facciamo noi. Lei risponda, faccia nomi e cognomi. Metto qui. Tante persone vanno sott'acqua. Sì, ma parlamentari pochi. Vai, i sub li fanno in tanti. È quello. Penso, Poi, secondo, per quanto riguarda il dottor Imposimato, bene, bravi, l'avete bruciato. In che senso? Gli avete fatto raccontare di tutto. Ma guardi che secondo me non aveva nessuna possibilità di arrivare al Quirinale, cioè, vabbè, per cui... se ne aveva una persa. Beh, su questo non c'è dubbio, devo dire la verità. Può essere, sì. Questo può essere. Bilderberg dietro le stragi in Italia, questo può essere, effettivamente. Dopo avevo altro, ma ho perso il filo ridendo con quel tele... Con Cosmo, col mitico Cosmo, vabbè. Daniele da Firenze, Cosmo. Daniele, buonasera. Daniele? Non c'è, Alessandro Brescia, ragazzi, forza, Armando da Napoli. Sì, pronto, buonasera. Armando, volevo dica. Fare un'osservazione sulla legge elettorale. Sì. Per risolvere il problema, sì, prendiamo le leggi lei. Americana, questa francese, altro, eh? Sì. Inglese, tedesca, svedese e quella italiana di Ciampi, no? Mettiamo i bigliettini in un cappello, prendiamo un bambino di 3 anni con gli occhi bendati, pesca una legge. E il giorno subito abbiamo una legge elettorale migliore di quella che abbiamo adesso, nel giro di 10 minuti. Sì, ma il problema è uno solo, si accusa Grillo di responsabilità, quando se vogliono le attuali forze politiche che sono in Parlamento, governo o meno, portano in votazione alla Camera una riga, un progetto di legge con una riga, è abolita la legge elettorale e c'è una nuova legge elettorale, cioè con una riga cancellano quella che c'è adesso e rimettono quella di prima, non ci vogliono governi, trattative, ecco. Eccetera, ci vuole che il Parlamento funzioni e il Parlamento può funzionare lo stesso. E il Parlamento può funzionare lo stesso. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Claudio da Messina, buonasera Claudio. Caro Cruciani, vada. Ma lei come ha fatto a votare un movimento in cui non si può dire che Bersani è meglio di Monti senza che arrivi il guru che dica no, sono uguali? Ma è un'idiozia. È un movimento, stanno diventando dei pagliacci. In che senso? Pagliacci. Scusi Claudio, non ho capito. Cioè, com'è possibile che ora un capogruppo non possa dire Bersani è meglio di Monti e non ci vuole molto, sinceramente, senza che arrivi chi? Il guru dall'alto dica no, che minchia dici? È così, funziona così, funziona così. No, non funziona così. Funziona così, non è un'idiozia. Questi perché qua... non è un'idiozia? Perché non è un'idiozia, perché c'è un capo allora politico, perché quello è un capo... capo politico. Ma il capo politico non può annullare le idee di tutti. Ho capito, non sai, ma infatti non è che l'ha cacciato, cioè, ha detto semplicemente che secondo lui Bersani è come Monti, perché hanno partecipato allo stesso governo, hanno fatto gli stessi disastri, eccetera, eccetera. Questo ha detto Grillo. Ora siamo ostaggi del popolo. Vabbè, ho capito, ma quello è. Lì c'è un capo politico che è Grillo, che ha deciso la strategia fuori da qualsiasi. Non è un capo politico, sì, è un capo assoluto. Perché ufficialmente non anche si confronta con nessuno della rete e se ne fotte. Vabbè. Bravo Parenzo. Ma che vuol dire? Parenzo dice sempre cose sensate. In che senso, scusi? Non ho capito. Meno male. In che senso? È un capo assoluto, certo, ma questo era prima. È un capo assoluto. Ma non è che prima era diverso, cioè non è che una scoperta degli ultimi giorni. Ma infatti, è sempre stato così. Chi si illude, eletto in Parlamento per il Movimento 5 Stelle, di decidere di testa sua o di pensare cose autonome rispetto a quella che è la linea dei due, io lo dico da sempre: è un pazzo. Cioè, è un pazzo. Verrà buttato fuori se insiste, se fa il mattoide. Vedrete che fine farà quel Mastrangeli, senatore che è andato dalla D'Urso violando tutti i regolamenti possibili. Passerà qualche settimana e poi alla fine verrà emarginato. Così ci sono due regole: nessun accordo con nessun partito e no ai talk show. Ma non è che ci sono 50.000 regole, due ce ne sono: no ai talk show, no all'accordo con qualsiasi partito. Ma di che parliamo? Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. Why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Eccoci qua, 800 24 00 24. Molte discussioni su quello che ha detto Feltri, il politico che ha ingravidato la Colf rumena e che è stato cacciato di casa, ce l'ha fatta a fatica, è anche uno cattolico, eccetera eccetera. Vabbè, basta, lo dico. No, non dirlo, perché... Ma tanto sono in Israele, non mi possono arrestare, rimango qui per sempre poi. Ho capito, però, che c'entra. Poi chiedo asilo politico. È uno che ama la famiglia, cattolico. Quello che ha detto Feltri è questo, dopodiché ci accusano di ammiccare troppo, di essere, per esempio Roberto Rao, che è stato in Parlamento fino alla scorsa legislatura, sì, che è uno storico collaboratore di Casini, scrive su Twitter: perché ammiccate, fate i nomi o verificate meglio le fonti, se no chiunque può dire la sua. Certo, non c'è dubbio, Feltri grande giornalista, no? Dice ironicamente, ovviamente si gioca, ma nella vita di un politico nel mondo occidentale, in tutti i paesi, c'è anche questo, esiste anche il gossip, esiste anche, esistono cose di questo tipo in tutti i paesi. Se non c'è gossip, non c'è democrazia. Questo lo voglio dire a Roberto con grande affetto. Cioè, se non c'è gossip, non c'è democrazia. Beh, ora certo, poi lo si può fare bene, male, se uno fa i nomi, io evidentemente a parte che lui si sente chiamato in causa, oppure si sente chiamato in causa il suo... No, lo faccio io il nome, guarda. No, chi è il nome? Fa il nome di un politico di Israele. Diciamo così, no, non è Casaleggio. Vabbè, adesso stai zitto? Stai zitto? Lorenzo da Roma, 800 24 00 24. Buonasera. Sì, dica. Allora, per quanto riguarda il gossip, può finire in INI solo perché essere cacciato di casa vuol dire che ha la residenza presso la moglie. No, la moglie o la compagna, insomma. Beh, non è detto, non è detto. No, dico però. Non è detto, guardi, le assicuro che non è detto. Sì, però potrebbe dare l'idea di uno che è andato a... e si è inserito in un ambito familiare da cui viene cacciato. Ma il motivo era un altro, invece, la telefonata. Con tutto il dolore, io ho due figli e sei nipoti, sì. Però non ha risposto alla sua precisa domanda la mamma di Aldrovandi su quel colore rosso dietro la testa, perché lei gli ha fatto una domanda precisa e lei non ha risposto e si è trincerata dietro, e quello sembrerebbe un fotomontaggio, o no? No, guardi, non c'è nessun fotomontaggio. Le pare che uno fa una foto con un fotomontaggio? Cioè, non mi dica le pare, perché. Ma non lo so, non è un fotomontaggio. In ogni caso, la discussione non è la foto taroccata, che non è taroccata, peraltro. La discussione è quella fatta da. Perché non ha risposto allora? Ma chi? Io non l'ho manco chiesto questa cosa qua della foto. No, lei gliel'ha chiesto se la foto. Lei ha detto non posso. L'ho sentito bene stasera, come ho sentito bene. Ma non credo che. Adesso non me lo ricordo bene il passaggio. È importante perché dai particolari che poi certe volte. Però, scusi un attimo, Giovanardi ha detto un'altra cosa, che quello rosso dietro la testa è un cuscino e non è sangue, punto, basta. Però non è nemmeno sangue, ma cioè, la foto non è taroccata, cioè come non è ma nemmeno no, sangue la foto, io parlo del sangue, ma il sangue è il sangue, cioè, non è sangue. E che cos'è? Che cos'è? È taroccata, l'ho messo con Photoshop il rosso. Ma quale Photoshop? Su, quale Photoshop? Ma non è riporto a dire stupidaggini così in libertà, non è Photoshop. La morte di un ragazzo, su, pensateci sopra, vedete, ma non ci pensiamo sopra per niente, non è taroccata, le assicuro che non è taroccata. Andrea da Udine, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Un momento, sto girando. Giri. No, volevo dire, io sono veramente allibito dal presidente Giorgio Napolitano. Cioè, un governo di saggi, ma non lo so, l'ha trovato da qualche libro di Dan Brown, una sinarchia fatta di persone unte dal Signore che sanno trovare le soluzioni a tutto, cioè, ma secondo me ormai è alla frutta proprio Napolitano, cioè. Ho capito, ma è alla frutta, sto signore anziano alla fine del suo mandato si è trovato in mezzo a un casino inenarrabile, con i partiti che non gli danno una mano a risolvere la situazione, comunque hanno la loro legittima strategia, nessuno si vuole mettere d'accordo con nessuno, con un segretario del Partito Democratico. Beh, e giustamente scusi Parenzo, nessuno vuole mettersi d'accordo con nessuno. Fino a prima PD e PDL erano d'accordissimo con il governo Monti. Il Movimento 5 Stelle, movimento che io ho votato, non vedo per quale motivo debba dare un appoggio a queste persone, cioè, allora, cioè che si mettono d'accordo. Allora a questo punto diciamo veramente come stanno le cose, che le elezioni, nonostante non ha la maggioranza, ma le elezioni politicamente l'ha vinta il Movimento 5 Stelle. Sì, ho capito, allora, ma lasci perdere questo. Qui abbiamo una situazione parlamentare che è quella che è, con una grande maggioranza alla Camera per il PD e per SEL, però ottenuta con un minimo di vantaggio grazie al Porcellum alla Camera, e al Senato con una maggioranza che non c'è. Non si può fare un governo perché le tre principali forze sono una contro l'altra, in sostanza, è bloccato. Certo, poi tutto si può pensare che sono inutili, io penso che sia una buffonata sesquipedale. Però che devo fare? Non ho il mito di Re Giorgio, ma non sto nemmeno lì a dargli la croce in testa su questa storia dei saggi. Ha nominato sti saggi, vabbè, e tanto adesso si esaurirà pure questa cosa dei saggi, questa buffonata pazzesca, analizzeranno i programmi, cercheranno di far mettere d'accordo i partiti su due o tre cose, presenteranno le loro relazioni, arrivederci e grazie. Importante che non gli diamo una lira, io non credo che saranno pagati, anzi sicuramente no. Ma come, pagare i saggi per cosa? No, non lo so, che ne so, visto mai che qualcuno chiede. Pagassero noi per leggere i programmi, siamo noi saggi, scusami, perché non hanno dato l'incarico esplorativo, il mandato esplorativo a noi, scusa. Beh, insomma, non credo che la cosa, no? Perché? Tutte le volte che ci telefona Napolitano alla Zanzara, scusa. Comunque non era un pesce d'aprile, anche se Feltri ha scritto il primo aprile quel tweet sui due politici, uno mezzo trombato alle elezioni, l'altro completamente trombato, in depressione e dall'analista, il primo mollato dalla moglie, pure il secondo mollato dalla moglie o compagna che sia, non era un pesce d'aprile. Gianluca, provincia di Ascoli. Sì, buonasera Cruciani. Innanzitutto volevo fare i complimenti a lei. No, no, i complimenti no, i complimenti no. I complimenti lo so che voi non li accettate. No, i complimenti gli do una botta in testa. Su, ma io li facevo solo a lei, non a Parenzo. A Parenzo proprio non li facevo, anche se mi è simpatico comunque. Anche se mi è simpatico. Vabbè, allora. Niente, volevo dire, insomma, sul discorso Grillo e sul modo che ha di praticamente bloccare chiunque abbia intenzione di avere delle idee, di manifestare delle idee, di dire la sua, perché uno si candida anche perché vuole dire la sua, altrimenti che se candida fa? Beh, ho capito, però le regole sono diverse, le regole di ingaggio nei 5 Stelle non è diverso, non è come negli altri partiti dove ognuno fa il cazzo che vuole, più o meno. Cioè lì in teoria tutti parlano una sola voce, che è quella dei due guru, di Grillo e di Casaleggio. Andiamo alla sostanza delle cose, che cazzo vuole che contino? Crimi, la Lombardia. A proposito della Lombardia, fatemi risentire De Luca, dai, su, fatemi risentire. Perché non contano un cazzo alla fine? Alla fine sì, ogni tanto qualcuno dice la sua, c'è qualche contrasto, qualcuno, però alla fine poi, secondo te, le telefonate decisive per la linea, ma chi le fa? Cioè chi le fa? Per ora per forza ne farai, ma è così, dai, con ecco. Casaleggio, ma dopodiché tra un po' finisce perché ognuno farà i cazzi propri lì dentro, altro che. Ma cose, io avrei voluto dire a Bersani, guarda Bersani, c'è una parola nel linguaggio italiano, nella lingua italiana, che è la parola dignità, che è un bene non negoziabile. Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica, mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazzato e vattene, ma vatti a fare due passi davanti a Montecitorio. Ma come ti permetti? Ma va a morire ammazzato e vattene. Le zanzare di casa mia. Beh, caro Parenzo, per questo tuo ultimo giorno israeliano ti ho fatto un grande regalo, Ti ho fatto morte? No, Maurizio Ruggero! Buonasera, buonasera Parenzo. Come andiamo, presidente della... Mamma mia, ci mancava solo il tradizionalista del Sacrum Imperium. Beh, voglio dire, ma lei va a sciacquare i panni del Giordano e si lamenta del tradizionalista, scusi. Ma quale giorno? Sono venuto qui a Tel Aviv, nella città dove capitare del Gay Pride. Adesso dai. ce l'ha pure con gli ebrei lei, Ruggero. No, bene, voglio dire, vedo che persino Bergoglio il giorno della sua elezione, il primo atto che ha fatto è quello di chiedere il permesso al rabbino di Roma di essere eletto vescovo di Roma, quindi voglio dire. Beh, il permesso. Cattivo, chiediamo il permesso anche a Parenzo se possiamo parlare. Ma adesso il permesso, Ruggero. Ma lei è veramente una brutta persona proprio. Scusi Ruggero, ma questo gesto del Papa, questo gesto del Papa di pulire i piedi anche ai musulmani lì dove stanno. Bellissimo. È stato un bel gesto, no? Ma come no? Infatti il collegio apostolico era fatto, era un plenum di musulmani, induisti, cattolici, atei, no? Lei se lo ricorda il collegio apostolico, cioè i 12 apostoli che era fatto, no? Sì, allora... Quindi, voglio dire, anche questo dà l'idea, l'ennesima bergogliata, insomma. Ma no, come la bergogliata? Come bergogliata? Ma dai Ruggero, adesso non le sta bene manco questo Papa a lei. Ma scusate, ma io capisco che voi altri siete due malvissuti di cui uno... è favorevole addirittura alle unioni sodomitiche, l'altro è pure israelita, figuriamoci cosa possono comprendere due persone come voi delle questioni ecclesiali, però io non mi associo ai bergoglianti, cioè non mi associo a quelli che in questo momento elogiano Bergoglio proprio perché li conferma nel fatto di non essere cattolici, cioè sì. Voglio dire, non è la grande pretesa quella di chiedere a un papa di essere cattolico, cioè di fare perché questo cose, papa non è cattolico? Ma cose, chi se... sì, ma bisognerebbe... Cioè, la sede vacante, caro Bucciani, non è che c'è da quando Ratzinger si è dimesso, probabilmente c'è da quando è morto Pio XII, nel senso che da allora in poi si è impresso una linea che è radicalmente opposta a quella che sempre la Chiesa ha mantenuto, a cominciare dalla questione ecumenica, dal cosiddetto dialogo interreligioso e via dicendo. Ma siamo arrivati alla follia del Bergoglio, sì. Quando era insieme davanti alla fila di giornalisti, si è rifiutato di benedirli per rispettare le convinzioni di qualcuno. Ma scusate, ma a sto punto... Scusi, cosa dovrebbe fare il suo programma? Tutti! Scusi, Ruggero, il suo programma, quello dell'associazione Sacrum Romanum Imperium, se lei... quale sarebbe per il Papa? Convertire tutti! Quale sarebbe? Il problema di Maurizio Ruggero, o di Sacrum Imperium, è quello di tutti i tradizionalisti del mondo che... L'unico è Parenzo che fa finta di non considerare, salvo poi sapere bene che hanno ragione. E cioè il programma è quello della restaurazione cattolica tradizionale. Ma che vuol dire restaurazione cattolica, Ruggero? Che dovrebbe fare? Il problema è che il 1789 della Chiesa, che è il Concilio Vaticano II, finisca. Perché tutti gli atti vabbè, di ma Bergoglio... Andando al sodo. Cioè cosa vorrebbe, come primo atto lei, di un Papa veramente cattolico, tradizionalista, quale sarebbe? Ma le crociate vorrebbe. Intanto io vedo che le crociate, le conversioni, uno si è già perso, perché il povero Magdi Allam è la prima vittima di Bergoglio. Beh, la prima vittima di Bergoglio. Su Bergoglio ha perso Magdi Allam. Ho capito, non mi sembra una grande perdita per il cattolicesimo italiano. Se lei avesse un po' di amore per per le anime, Cruciani, terrebbe anche all'anima di Magdialmo, come quella di chiunque altro. Ma anche l'anima, ho capito. All'anima, persino di uno come Parenzo, che non si convertirà mai con questo tipo di cose. Scusi, lo Stato Vaticano... Non ho nessuna intenzione di convertirmi a nulla! Cioè, secondo me... Questo le piace il Bergoglio, vede? Nello Stato Vaticano ci vorrebbe ci vorrebbero delle leggi durissime sull'omosessualità. No, ci vorrebbe anzitutto un ritorno alla fede cattolica tradizionale. Vabbè, quello ho capito, ma una legge durissima sull'omosessualità ci vorrebbe? Ma facciamo un esempio, quando Bergoglio aveva di fronte a sé tutto il panorama dei capi di Stato, no? Sì, che doveva fare? No, voglio dire, può essere un discorso adesso di opportunità o meno. Ah, però, ecco, sì. No, però voglio dire, anziché parlare della tenerezza, sì, della custodia, che delle fare? Sciocchezze di questo genere che vanno bene a tutti i malvissuti, a tutti gli anticattolici, sì, del mondo. Sì. Ma come, perché non ricordare i vari problemi che esistono dal punto di vista dei peccati? Ma insulta della cristianizzazione, della gente che non crede in più e che vive da atea, dell'importanza della preghiera. Perché non dire queste cose che sono cose un po' scomode e fare solo il discorso della tenerezza, il discorso della custodia, cioè quelle scemenze che non le piace, non le piace, le bagasce televisive. Come le bagasce televisive? A loro volta, ma quali bagasce televisive? Che si convertono. Vabbè. Traffico, torniamo subito perché Ruggero ha una sua idea su altri argomenti. 800240024, il presidente dell'associazione Sacrum Romanum Imperium. La pace sia con te. Strade in diretta. 20:46 minuti, buonasera dalla redazione di Strada in Diretta. Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud, ci sono 3 km di coda dalla barriera in entrata verso la capitale. Coda a tratti per traffico in direzione di Roma, poi lungo la 24 Roma Teramo tra Lunghezza e il Grande Raccordo Anulare. Resta trafficata anche l'area intorno a Milano, soprattutto le tre tangenziali, ma al momento non ci sono particolari difficoltà. Prudenza per il maltempo al centro-sud, sta piovendo in particolare tra Lazio e Campania e sul versante adriatico tra Abruzzo e Alta Puglia. E Vischio invece in Friuli sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Ugovizza e il confine di Stato. È tutto, Strada in Diretta, torna tra un'ora. La Zanzara. Quando la zanzarita. Antonio, provincia di Milano, buonasera Antonio. Buonasera signor Cruciani. Dica. Guardi, io devo dirgli che lei purtroppo non è un giornalista serio. No, quello non c'è dubbio. Guardi, io è 10 anni che seguo questa trasmissione. Sì, quella trasmissione... Sono appassionato, mi piace a volte, mi piace, sì, a volte sì, no. Sì, sì. Però lei non è serio, perché per più di 20 anni ha tirato la volata a Berlusconi. Sì. Adesso ha cambiato idea e tira la volata a un altro incappucciato. E chi è l'altro incappucciato? E sarebbe Grillo, sì, sarebbe l'incappucciato, quello che non ci fa vedere. Sì. Allora io dico questo: sì, se un partito non ha una democrazia al suo interno, che c'ha un padrone e un bastonaro, se non c'è democrazia, come pensa di governare un paese democratico? Dove andiamo? In Sud America stiamo andando a finire. Ma non so di cosa sta parlando lei, sto Antonio. Parlando, innanzitutto, questo è il problema, innanzitutto... che lei non sa. Lei è un difensore a spada tratta di questo partito 5 Stelle. Ma quale difensore a spada tratta? Questo, ma quando mai? Ha cambiato bastone, perché siccome Berlusconi non è più nessuno, sì, allora puntiamo sull'altro che è sempre contro tutto e contro tutti. Io ripeto, sì, il Movimento 5 Stelle, 5 Stelle non ha una democrazia al suo interno. Vabbè, allora? Come può governare un paese democratico? Vabbè. Come può? Antonio, grazie. Giuseppe dalla provincia di Monza, buonasera. Ma è sparito il Sacro Imperio? No, è qua, Giuseppe. Sì, buonasera. Dica. Voglio intervenire a proposito di ciò che ha detto Imposimato circa 20 minuti fa. Io capisco che siamo arrivati in aprile, è passata la Pasqua e febbraio e siamo ancora a Carnevale, perché come fa un magistrato a dire in TV che il 90% dei soldi che si devono spendere per la TAV sono spesi in mazzette e il 10% per le opere? Ma che ne so. È una stronzata colossale e abnorme, detta da un magistrato poi è anche peggio. E guardate... molto onestamente dovreste fare al dottor Imposimato, sì, la prova del palloncino. Ah, lei dice, lei dice. Prima di parlare, ma non solo, poi dopo lo vorremmo anche fare Presidente della Repubblica, ma siamo è molto popolare tra i 5 Stelle, grazie. Lo so, Ruggero, perché il femminicidio non esiste? È evidente che non esiste il femminicidio. Come evidente? Cioè, non esistono gli assassini nei confronti delle donne, le violenze nei confronti delle donne, scusi. No, sto parlando, beh, il femminicidio vuol dire l'ammazzamento, fino a parlare con l'ammazzamento, sì, l'ammazzamento. Non esiste il femminicidio come fenomeno. Ma scusi, lei ragioni. No, ragiono. È difficile per lei, provi a ragionare un attimo. Ragiono, allora. Sa quanti sono i delitti passionali rispetto al complesso degli omicidi? Quanti sono? Non l'ha visto? Sui dati del Ministero dell'Interno, sì, sono neppure il 17%. Vabbè, allora? A chi credi? Di questi delitti passionali, no? Solo una parte sono quelli legati appunto a rapporti di gelosia, perché anche due fratelli quando litigano, o il padre e il figlio quando litigano, non ci sono femmine di mezzo, ci sta. Secondo lei dunque è tutta una farsa questa roba qua, quando si parla di femmine? No, è una percentuale assolutamente marginale, sì. E comunque è ovvio che sia così, è come se lei mi dicesse, ma lo sa che quasi tutti o tutti i morti nell'edilizia succedono nei cantieri. E dove devono succedere i morti dell'edilizia se non nei cantieri? È normale che una quota di omicidi passionali. No, ma scusi, io non ho capito una cosa. Io leggo qui la sorella, io leggo sul suo blog. Se non nella fantasia repressa esiste il femminicidio di matte femministe. Sì. È così. Vero, perché ripeto, il dato sì, assolutamente conclamato. Ma le donne dove devono stare secondo lei? Dove è meglio che stiano le donne? Dunque, vedo che lei ha passato da Bergoglio all'aspetto familiare. Dunque, sì, sicuramente non devono stare in politica, dove fanno danni mostruosissimi. Dunque, donne fuori dalla politica, poi? Prima di tutto. E poi la dimensione loro, quella degli affetti, sì, è quella privata, si capisce, la famiglia. Cioè, devono stare a casa, secondo lei. Non devono lavorare. Anche perché i lavori femminili, io come sono certo, quando sono ad esempio, che so, le giornaliste, quelle acquattate nei vari uffici di vari enti inutili, sì, che passano carte, opprimono i poveracci, ecco, oppure invece i lavori seri, quelli invece che sono giusti, sì, sono quelli che sono una proiezione della famiglia, cioè per esempio quella che gestisce l'albergo col fratello, col padre, sì, beh, quella certo, che ha l'azienda di famiglia, quella ma che lei fa che la cazzo fa tutto il giorno invece, ma scusi. Scusi un attimo, Ruggero, lei che mestiere fa invece? No, scusi. Lei interrompe le balle alle donne che lavorano, lei tutto il giorno, con rispetto, ma che cazzo fa? Beh, più o meno quello che fa Parenzo, cioè assolutamente nulla. Ma però che fa? Non fa nulla tutto il giorno lei, Ruggero? No, voi sapete, no, che c'è la battuta famosa sui giornalisti, che è sempre meglio fare giornalisti. Ma che lei che fa tutto il giorno, Ruggero? Sto curando un testo di carattere storico, perché tutto il giorno... Un testo di carattere storico? No. Scusi un attimo, ma secondo lei le donne sono inadatte al lavoro? Allora, intanto la cosa importante è la proiezione domestica, che è la cosa più cioè devono stare, la cosa fondamentale è che restino a casa, lei dice. No, cioè una cosa importante è che il lavoro sia connesso con quella che è la loro attitudine. Quindi, cioè la proiezione familiare, lei dice. Per esempio la proiezione familiare, per esempio il fatto anche di evitare, come posso dire, luoghi che possono essere pericolosi dal punto di vista morale. Cioè? Per esempio evitare l'esercizio d'autorità, che è una cosa che collide... Cioè, ma che vuol dire esercizio d'autorità, scusi? Cioè, la vigilessa non va bene, per esempio. Ma come la non va bene? I polli. Ma perché fa ridere i polli la vigilessa? No, ma effettivamente è ancora più urtante, perché... Ma dai, su, Ruggero! Il ridono della vigilessa e della carabiniera. Ma lei è contro l'evoluzione del mondo? No, io sono favorevole alla natura, cioè mentre voi ma dai, siete su quelli che sostengono persino le unioni sodomitiche, tanto ma che unioni sodomitiche? Noi invece sosteniamo il ritorno a un elemento di ma a casa naturale. Sua è pieno di froci, nel suo palazzo è pieno di froci, non si preoccupi. Come no, è pieno di froci nel suo palazzo, non si preoccupi. Sicuramente non li conosco, ne li ho visti. Guardi, visti lei? No, che, sicuramente nel palazzo in cui lei abita, come percentuale, ci sono sicuramente dei froci. No, guardi, mi spiace. Ma io lo dico io, perché conosce tutti lei? Beh, sì, li conosco tutti, sì. No, ma guardi che sicuramente nelle vicinanze lì, tra i suoi vicini, c'è sicuramente qualche omosessuale. No, perché no, lei cosa fa? Scusi. Non credo. Comunque, quando anche fosse, il problema è un problema di ordine morale, cioè, come dire, non è che se esiste una percentuale che comunque è l'1-2%, sa quant'è la percentuale dei sodomiti nel mondo, vero? 1-2%, mica delle balle che vanno a raccontare i suoi amici dell'arcigay e sodomiti vari. Ma che perché lei li chiama sodomiti? Non ho capito. Perché è il termine tecnico, sa? Ma perché sodomiti? E come devo chiamarli? Comunque, lei secondo me qualche volta ha baciato un uomo in vita sua? No, tutti i giorni, guardi, mi sogno Parenzo e Cruciani tutti i giorni. No, secondo me qualche uomo l'ha baciato. No, ma dica la verità, dica una volta per tutte, per lei, faccia coming out. Sono anche le persone normali che hanno una naturale pulsione verso l'altro sesso. Mi spiace per lei, che ormai è così pervertito che non vede altro che questo. Ma che pervertito, su, ma sì, che pervertito. Diciamolo, Cruciani, via, che è pervertito, perché la verità è così, pure anche Parenza, diciamo ideologicamente. Ma fossi pervertito, anche pervertito, fossi anche moralmente, non fossi sappiamo, anche pervertito, non sei, per fortuna la perversione non è condannata, lei sa, eh. Non ci sono leggi che condannano la perversione, lei sa. Quando anche fossi pervertito, non so in base a quale criterio. Non finisce in galera. Cioè, non è che si finisce in galera, lei lo sa, no? Oggi come oggi. Oggi come oggi. Certamente nel suo mondo. Ma quando non governerà lei? Ma lei non governerà mai. Io, lei mi preoccuperei, Cruciani, nel senso che, vede, la perversione ideologica di cui lei è portatore, sì, portatore non sano, sì, perché lei è portatore anche infetto, portatore è molto peggiore, cioè vuol dire molto peggio. Il fatto che lei sia favorevole alle unioni sodomitiche, sì, del fatto che lei potesse eventualmente essere sodomitica. Comunque in Parlamento l'avverto che sono entrati in quattro, eh? Mamma mia, e il Parlamento democratico dovrebbe essere di più, perché essendo il Parlamento democratico la, in qualche modo, una sentina di quelle che sono, sì, le istituzioni moderne, mi aspetterei che ce ne fossero anche di più, voglio dire. Comunque la cosa sulle donne è ancora più grave, quella che ha detto stasera lei, eh? No, io sono favorevole ancora una volta a un ritorno alla città tradizionale. Quando questo succederà, cioè, quali sono i lavori che non dovrebbero fare, secondo lei? Quando questo succederà a Parenzo e Cruciani, secondo me bisognerà anche ricordarsi di queste vostre belle trasmissioni, ma, di queste vostre belle idee. Io non ho capito, idee. Ruggero, quali sono i lavori che le donne non dovrebbero fare, secondo lei? Ci abbiamo parlato prima, la poliziotta, la carabiniera, la magistrata. Nemmeno i magistrati donne? Ah, dai, su, nemmeno i magistrati donne, Ruggero, l'insegnante, su. Ma io devo dire che l'insegnante, che qua la perversione che appunto è arrivata l'insegnante, fino al 65, persino la Corte di Cassazione diceva che l'elemento femminile è inabile a questo tipo di professione. Vabbè, a parte che bisogna verificare, ma fino al 75, appunto, insomma, per fortuna è cambiato qualcosa. Francesco, no, da Ferrara, un attimo. Vuol dire che se fino al 65, per 2000 anni, 65, così, sì, e se in tutto il mondo, sì, guarda caso, la politica e le funzioni pubbliche sono assegnate agli uomini, un dato di natura c'è. Bah. C'è anche un dato, forse c'è un caso di arretratezza. Francesco da Ferrara, no, c'è un caso, un attimo, fermo, Ruggero, Francesco da Ferrara. Francesco? Francesco! Fabrizio da Latina. Buonasera. Veloce. Un abbraccio a Parenzo. Comunque niente, volevo, ciao, dire che la situazione italiana alla fine sta tutta in quello che ha fatto il Presidente della, cioè, Repubblica, Morfeo. Cioè che ha nominato questi 10 saggi, sì, ma quello che vedo male io non è tanto che ha nominato 10 saggi, ma ciò che è Morfeo è che il fatto che nei 10 saggi non c'è neanche una donna. Guardi, per me questa cosa delle donne, se uno pensa che questi 10 saggi sono una buffonata, forse è meglio che non ci siano donne. A domani 18:30, ciao. Nei miei tweet non sono potuto scendere in dettagli. Un signore che ha sempre difeso la famiglia. Sai che quelli che amano la famiglia spesso ne hanno 2 o 3. Al contrario, al preservativo, ma non all'ingravidamento. Viva la vita! Sì. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione si sente.